Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Domenica 4 dicembre 2016, come sempre cominciamo Voice Anatomy ricordando chi è nato questo giorno e chi ci ha salutato. Beh, insomma, nel 1969, il 4 dicembre, nasceva un grande rapper, poco atto, mai come me, ma sicuramente grandissimo. Oltre a lui, Jeff Bridges e Cassandra Wilson, grande interprete di musica jazz. Lui è Jay-Z. Yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it. Cominciamo come i veri video americani. Però ci tengo, visto che la trasmissione Voice Anatomy parla della voce in tutte le sue declinazioni, ovviamente ormai avete imparato a conoscerla. C'è un'altra data molto importante, che è sempre quella del 4 dicembre del 1967. Ci salutava il maestro d'Italia, la persona che dal 1960 ha insegnato a parlare, a leggere, tutti gli italiani che non hanno avuto la possibilità di farlo. Lui è l'indimenticato, Alberto Manzi, e voglio mandarvi la sigla di Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI, Radio Televisione Italiana, presentano Non è mai troppo tardi, corso di istruzione popolare per adulti analfabeti. Cari amici, buonasera. Buonasera a te, grande Alberto Manzi. Sì, che poi l'ha portato anche sul piccolo schermo Claudio Santamaria in una bellissima fiction. Ma adesso parliamo dei nostri ospiti. Sono circondato perché si alterneranno in una domenica che è anche caratterizzata dal derby. Io eviterò di consultarmi con tutti quelli a Milano, di tutti i convocati, perché sapete come si chiamano, ma è una gioia e non voglio ascoltarli. Cominciamo con chi assolutamente deve abbandonarci velocissimamente perché è impegnata al Teatro Eliseo in uno spettacolo meraviglioso. Lei voglio leggere. Sei nata a Roma, posso dire quando? Certo. Ok, sei nata a Roma il 3 aprile del 79. È certo che dice certo, del 79. Ma guarda, non te credere, Pino, ma comincio a avere i miei anni anche io. È vero, te vedo, stanca. Mi vedi stanca. Sì, provata. Disgraziato. Sei di origine napoletana, ma sei nata a Roma. Yes. Giusto? Sì. La cosa che mi diverte molto è il tuo debutto come attrice. Voglio raccontarlo un po' perché mi diverte il crescendo che hai avuto. Tu hai cominciato con La Squadra, dove sì, eri un agente. Sì, normale. Scelto. Un agente scelto. Poi sei cresciuta, perché dopo sei diventata uno dei protagonisti di Distretto di Polizia. Ispettore. Eri ispettore. Ragazzi, poi Rex. Non eri nel cane, nel commissario, ma eri anche lì. Poi ero protagonista di puntata perché mi dovevo sposare e mi servivano i soldi. Ho capito, ma questa è un'altra storia. Dopo Rex, non contenta, hai fatto Cesare Mori, il prefetto di Ferro. Mm-hmm. Non ci siamo mossi da lì. Poi, Ragion di Stato. No. Che facciamo? Sto cominciando a farmi delle domande. Esatto, io ho notato queste cose e adesso sei protagonista nella mafia, uccide solo d'estate. Insomma, no, c'è una situazione, sei cambiata, la mafia non... Sì, sì, beh, diciamo che più di altro non mi sono mossa. Non te sei non mi sono mossa. Io speriamo di diventare magistrato quanto prima nella prossima fiction. Lei è Anna Foglietta, grazie. Salve, Anna, buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti, grazie Pino, ovviamente, grazie. Protagonista di tantissime cose meravigliose che racconteremo strada facendo, una delle ultime straordinarie, Perfetti Sconosciuti, sì, di Paolo Genovese, che oggi non vuole neanche entrare per telefono perché è allo stadio. No, è allo stadio con mio marito, tra l'altro, per cui lasciamoli stare. Vabbè, ma si vive in una società multilaziale, lo dico sempre, per cui... Anna Foglietta, però sei circondata perché... Abbiamo qui alla mia destra un grandissimo poeta, forse uno tra i più grandi della seconda metà del Novecento. È vero, vivente, incredibile. Vivente. Cioè, l'importante è che sia vivente. Viventissimo. Che è Davide Rondoni, benvenuto. Ciao, Davide. Ciao, farà una sorta ciao, di Virgilio per tutta quanta la puntata. Mi accompagnerà e mi darà anche dei termini nuovi che io magari non conosco perfettamente, per cui non avete modo voi con gli sms di ricordarmi niente, né tantomeno di correggermi. Al tuo fianco c'è un caro amico che è Marcello De Vito. Marcello De Vito, anche se lui è capo del... Buonasera, buonasera Marcello. Dell'assemblea capitolina del Consiglio Comunale. Oggi non si parla di politica. No. Non puoi dire no. Non puoi dire né no né sì. Tu non devi dire niente. C'è come amico, perché siamo amici, ci conosciamo, lui amante del cinema, della musica e quant'altro. Ho detto vieni a far compagnia, tanto lui è pure... ovviamente romanista stiamo, ma non ha il coraggio di vedere anche lui il derby, per cui è felice di essere qui. Ciao. Accompagnato, visto che voi sanato, mi dà il portavoce, che è Sandro Gugliotta, che ringrazio perché è stato anche un mio gancio per capire quali sono le preferenze, a meno musicali, del cinema dell'amico Marcello. Insomma, siamo circondati bene. Cara Anna, cominciamo subito a parlare di te. Insomma, questa cosa è strepitosa, il fatto di cominciare con tutti questi agenti. Ma in realtà quello è un problema un po' della televisione, se vogliamo, sì, che veramente vero, cioè, gira molto intorno al tema della giustizia, al giustizialismo, insomma, i grandi temi legati alla giustizia. Quindi, insomma, non è che pure un attore può scegliere più di tanto. Insomma, poi tutto quello che tu hai citato è stato intervallato da cinema, da commedia, sì, da altre racconto, cose. Non è però, solamente no, però mi ha fatto ridere militare. Questa cosa, credimi, non ci avevo mai pensato. Guarda, insieme agli autori che sono Mauro Meconi, che saluto, siete, e Alessia veramente Navarro. Degli stalker. No, comincia anche con ST, anche quella, ma sì, sono sdoganata. Se può dire, da quando Cruciani a Radio 24 ci ha sdoganato un po' tutto quanto. Beh, sì, per cui è stata una cosa molto carina e divertente. No, nel frattempo c'era anche il teatro, sì, ovviamente. No, ma certo, non sto scherzando. Voglio ricordare la cosa più importante di questo momento, che tu sei al Teatro Eliseo, qui vicino, per questo sì. T'ho coinvolto e sconvolto facendoti arrivare, perché siamo alla fine di Via Nazionale, con La pazza della porta accanto, sì, di Claudio Fava, per la regia del bravo Alessandro Gassman. Sì, è un testo che mi è stato proposto 2 anni fa. Dopo tanto Scarpetta, dopo tanto De Filippo, che poi ho abbandonato perché erano circa 14 anni che non facevo più teatro, Alessandro Gassman mi chiama e mi propone questo testo. Io lo leggo di notte perché era l'unico momento in cui potevo, perché all'epoca mio figlio era molto piccolo, per cui mentre lo allattavo di notte leggevo questa roba e ho continuato ad allattarlo per tipo 3 ore, perché l'ho letta più volte, perché sono rimasta completamente rapita. Tuo figlio testo. Adesso c'ha una colite forte, l'hai saputo? Oltre alla colite è diventato pure lui bipolare come la Merini, diciamo così. Tanereta. No, scherzo, però insomma non tu potevo. Tu hai 3 figli, no. Diciamo. Sì, io ho 3 figli, ho 3 figli. Ovviamente quando il pubblico cala tu sei piena comunque in scena. Io non calo mai, mi piacerebbe tanto calare. Tuo marito è veramente, è lo stesso marito, è no? È lo stesso marito, il padre di tutti e 3 figli ed è molto molto bravo, altrimenti non potrei fare tutto quello che faccio se non avessi una presenza esatto. Così forte accanto. Cioè è bravo, non parlavo dal punto di vista fisiologico, cioè no, bravo, è bravo come padre. Anche pure troppo. Beh, certo. Lì, gli direi un po' meno Paolo, un po' meno, però è molto bravo come padre. Sai come nascono i bambini, no? E me l'hanno spiegato, credo esatto. Di averlo capito a questo punto. Esatto, ferma. Adesso ora che l'ho capito penso che va, rimarranno 3. Sì, maschi, femmine come suddivisi. 2 maschi e 1 femmina. Che bello, vabbè. E quindi La pazza della porta accanto è questo testo di Claudio Fava sulla storia di Alda Merini e il suo periodo di internamento in manicomio. Raccontiamo un arco narrativo più o meno di 10 anni e raccontiamo la discesa negli inferi di questa donna, grazie al quale appunto è riuscita a produrre le sue poesie più belle. C'è un verso proprio del testo che io cito sempre perché secondo me è molto calzante. Lei dice: le più belle poesie si scrivono sopra le pietre coi ginocchi piegati, a giustificazione del fatto che tutto quel dolore non è stato invano, ma che anzi le è servito per contribuire a creare le sue cose più belle. Questa è poesia, Rondoni. Come la vivi questa situazione della Merini? Beh, è vero che la poesia è... Senti che vocetta che c'ha sto poeta. È l'unico poeta che può leggere le sue poesie. Pensate, che normalmente un poeta non deve leggere. Invece mi sa che oggi le legge da lui. Faremo una prova. Dai. No, è la dimostrazione che appunto la poesia toglie l'ultima parola al dolore. Cioè, questa l'ho detta io sta cosa? No. Sì, no, non te lo ricordi. Esatto. Cioè, la poesia toglie l'ultima parola al dolore, alla sventura, per cui un grande dolore come quello della Merini e di tanti come lei ha trovato voce, e trovare voce vuol dire non essere solo dolore, essere solo silenzio. Questo è uno dei prodigi che la poesia, l'arte in genere fa, che appunto strappa l'ultima parola al dolore. Io che ho 4 figli, quindi ho già battuto. Ho capito, però ragazzi, allora rivedo la mia posizione. Marcello, tu 5, sto a 1. Stai a 1. Ok, adesso no. Ricorda questo. No, so che, appunto, che per esperienza sai che la vita è tanta e la vita ti colpisce in tanti modi, e la poesia è un modo per mettere a fuoco la vita anche quando è dolorosa e ferita, come nel caso di Alda o di tante altre persone, di tutti noi, perché tutti abbiamo ferite e dolori, però appunto la poesia fa questo. Cioè, pensa a Ungaretti che era nelle trincee, e noi quando pensiamo alla guerra pensiamo alle poesie di Ungaretti. a tutto l'orrore della guerra, però che ha trovato voce. E questo è un... perché l'uomo è fatto così, non vuole lasciare l'ultima parola alla morte e al dolore, non, gliela toglie, e la poesia toglie l'ultima parola al dolore. Io lo amo. No, è molto bella questa cosa, noi la diciamo attraverso lo spettacolo, certo. Però è assolutamente vero, l'arte, la funzione dell'arte, altrimenti non esisterebbe da così tanto tempo, le persone non avrebbero bisogno di rivolgersi, certo, a lei, soprattutto nei momenti di difficoltà. È vero. Pensa Dante. Che bello, oggi che parli di poesia, quando c'è un derby che incombe e facciamo tutti finta di niente, è meraviglioso. C'è la povertà dell'uomo, no, che, la razionalità. Cioè, tu ci stai sfruttando, sì, di la verità. Pestate, ma io guardo Marcello e dico: Marcello, per te la poesia, l'hai conquistata la poesia, tua moglie, il tuo ruolo, tu sei un avvocato. Sì. Penalista o civile? Civile. Ti sei accostata alla poesia qualche volta? L'hai utilizzata per conquistare qualcosa, qualcuno, oppure no? Non vivi la poesia, sei molto pratico. No, diciamo, non mi è mai insomma, la leggo tranquillamente, come... sì, ma sì, non sì. La utilizzi? No, non mi è mai capitato, almeno che io ricordo. Però c'hai un amico che potrebbe parlare, magari dedicare delle canzoni, sì, questo sì, sicuramente sì. Io so che tu sei appassionato di musica, per esempio questa è un inno alla vita ed è dedicata a tutti noi, guarda, a tutti noi, ovviamente a voi radioascoltatori, viva la vita. Non è una trasmissione che fa sentire musica, ma so che i Coldplay sono uno dei gruppi preferiti di Marcello. Assolutamente. Senti, sì. È bello anche, poi viva la vita, grande l'urlo di Frida Kahlo, ci tiene anche Alessia Navarro, visto che l'ha interpretata a teatro. Qui c'è un, non c'è un ospite, sono 70 ospiti che navigano intorno a tutto questo. Mi colgo l'occasione per salutare Rachele, la nostra caporedattrice, grazie Alessandro, tecnico del suono straordinario e qualcosa in più, su a Milano, molto attenti a tutto. All'altra parte già ci hanno raggiunto il gruppo dei Gardio Poeti. Il gruppo Carbio Poetica, che tanto ha avuto successo l'altra settimana, ha saputo che veniva qui il Del Piero dei poeti, si sono subito, no, affiancati, anche lui grande studioso di Altamirina, ha vinto anche il premio Totti, Altamirina. Oggi è il caso di dire il Totti, forse. Non ho capito, no. Oggi forse è il caso di dire il Totti, non, dei non poeti. Ho capito, va bene, non riesco a capire quello che dice Marcello, essendo un politico, certe volte i politici non si capisce. Ho detto oggi la politica, no, Sandro, tu che sei il portavoce, devi parlare a te al posto di Marcello. Il portavoce mi diverte come idea. Il portavoce è muto, tra l'altro. Esatto, però c'è un portavoce che sta muto. Non ha potere di dire nulla il portavoce. È un caso particolare. Se telefoni, però te parla lui. Però in radio non può parlare. Non può, è proprio. Siamo arrivati alla fine del primo blocco, vero? E allora, signori, avete capito che la puntata è molto ricca dal punto di vista degli ospiti, anche intellettualmente. Per cui io per la prima volta starò più zitto del solito. A tra poco, Voice Anatomy è appena cominciata. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Voice Anatomy. Bentornati, signori, Voice Anatomy, 14, 46 primi e 52 secondi, ospiti ricchissimi. La protagonista di questo momento è Anna Foglietta, che è impegnatissima al Teatro Eliseo, questo spettacolo straordinario che io dico spesso e qualcuno mi dice inventa un altro sinonimo, non ce l'ho, c'ho solo quello, che è La pazza della porta accanto. Però Anna, abbiamo raccontato la televisione in tutte le sue divise, sì, però c'è anche un cinema, è un cinema, io voglio ascoltarmi un momento di un film bellissimo di Massimiliano Bruno, mm-hmm, che poi è stato il film che è stato un trampolino di lancio, sì, lo Sliding Doors, sì. Io ho avuto vari momenti della mia carriera, ma come tutti, sì, penso, insomma, c'è un po' il punto zero, no? E questo è stato un po' il punto zero, un'altra fase che mi ha permesso di farmi conoscere, di entrare nell'altro, sì, un po' come è successo a me con Gangs of New York, esatto, di Martin Scorsese, da lì poi non mi sono più fermato di cazzate. Andiamo avanti. Sentiamoci un momento di Nessuno mi può giudicare con Anna Foglietta. Esistono tre categorie di uomini, sì, gli uomini veri, i mezzi uomini e i senza palle. Gli uomini veri sono quelli che non hanno bisogno di pagare una donna, i mezzi uomini invece sono quelli che la pagano ma fanno di tutto per non farsi vedere, ok? E poi esistono i senza palle, che sono quelli che farebbero carte false per farsi vedere in compagnia di una bella ragazza. Oh, con questi si guadagna un botto di soldi. E come fai? Beh, è facile, sai, bisogna solo fargli venire l'acquolina in bocca. Ammazza, li hai sdraiati! Oh, no, è tutto sta ad usare bene le armi che hai a disposizione. Il problema è che io non ce l'ho queste armi a disposizione. Non lasciarti abbattere, ma solleva il tuo spirito e trova in te stesso la forza. Oh, ha detto Krishna, mica uno stronzo qualsiasi. No, tu guarda, devi sapere che quando ho girato questa scena ero tipo depressa, con mio marito in macchina piangevo perché dico, ho fatto un disastro, la scena più brutta del film, sono una cretina, non mi sono concentrata. E invece poi è diventata la scena calda, insomma, quella del bar. Io credo che un attore meno pensa è meglio. Lo so, Pino, ma come si fa? Ma come non si deve fa? Pensare ma come un si attore? Fa? No, vabbè, Marcello, sono cerebrale. Ma, non, ma che cerebrale? Ma smettetela con Stanislavski, Grodowski. Ma quale Stanislavski? Si chiamano i player gli attori. Perché tu mi litigano? Sei l'ospite d'onore. Non voglio litigare. Io tra l'altro sono pacifista. Pino! Pensa alla prima a teatro. Alla fine che hai detto no, basta. Ma è la fine. Ma figura, ma no, che significa no, per no, me? Però sono una di quelle sempre scontenta. No. Male, dai, no. Voglio diventare amico di tuo marito. No, ma lascia perdere. L'umiltà si... Lascia perdere. Tre figli. Guarda, dimmi, Marcello. I migliori discorsi che mi è capitato di fare sono stati quelli improvvisati. Quelli in cui non avevo una traccia. Esatto. O magari solo qualche idea che sapevo. Però insomma, ma che non erano preparati, quindi tante volte no, improvvisare è la cosa. Io lo amo profondamente, certo, devi avere una base importante, certo. Non puoi improvvisare una poesia, ci cioè, stanno le gare come i cantori di una volta, eccetera. Però sì, se hai la possibilità di non prepararti un discorso, soprattutto quando non sai che persone ci sono davanti a te e intorno a te, però devi avere una capacità fortissima di programmazione neurolinguistica, di comunicazione non verbale per capire chi c'è intorno. Davide, per esempio, è uno che insomma tutte le università, i ragazzi. L'improvvisazione in queste cose non esiste, cioè anche l'attore quando pare fare delle cose spontaneamente, istintivamente, sta solamente giocando velocemente un bagaglio di esperienza. Certo. Cioè, è come un calciatore, cioè, cioè, gli è venuto istintivo, è venuto istintivo, sto cavolo, cioè, c'è la di base. Fa 8 ore di allenamento al giorno. Quindi in realtà in tutto ciò che è tecnico, e l'arte è una tecnica, il teatro, ma anche la politica è una tecnica, non esiste l'improvvisazione. E quando esiste si vede lontano un miglio. Assolutamente sì. Senti Anna, teatro, cinema e televisione, dov'è che la recitazione insomma si libera di più, dove ti senti più libera, dove ti piace di più, beh, navigare? Teatro sicuramente è lo spazio libero per un attore, sempre, comunque, perché hai la possibilità di studiare, di approfondire, di cambiare sempre quella che tu pensi sia una visione, una strada che hai intrapreso, e all'interno di quella strada ci sono delle dinamiche ogni sera diverse, divertenti e stimolanti, quindi sicuramente mi offre proprio delle, cioè come un giocoliere, cioè mi diverto sul palco veramente tanto a sentire una sfumatura diversa, un tono di voce, un movimento, mi piace, mi affascina. Ti intoni tu al pubblico, fai in modo che il pubblico si intoni a te, questo per tornare indietro. Io sono molto egoista, io sono molto egoista, cioè mi piace molto manipolare il pubblico, questo mi piace, cioè nel senso sentire proprio che sono attratti da questa cosa, è sono io che li porto in questo viaggio, non sono loro che mi portano da nessuna parte. Io sono il professionista e loro si hanno pagato il biglietto, io li devo far divertire. Tu sei Caronte. Sì, tu io sono Caronte e mi piace proprio questa cosa, mi dà un senso di... E quello è un rapporto sessuale che si consuma ringraziando Dio senza figli. Senza figli, però è preservativo, quello. Però esatto. Sì, è quello, devo quello dire, è carnale, senz'altro. Sì, assolutamente è quello, il pubblico è tutto, poi ogni sera cambia e devi essere tu a uniformarlo, farlo respirare con te, fargli battere il cuore insieme a te. Sì, io guardo, portartelo dietro, noi è come abbiamo una cosa politica, assolutamente. È vero, noi abbiamo lo spettacolo che non ha sipario, per cui quando noi entriamo in scena siamo ai lati delle quinte, non avendo quinte lo spettatore ci vede prima di iniziare lo spettacolo e noi vediamo loro, e devo dire che per me è proprio una grandissima sfida ogni sera guardarli prima di iniziare lo spettacolo, e quasi metaforicamente gli dico adesso vi faccio vedere io quello che succede in quest'ora e mezza. Sì, è quello. È divertente. No, beh, a me già quando si chiude il sipario e poi si riapre e non c'è nessuno, è come aver fatto l'amore con qualcuno e poi sei andato col taxi, no? Tu resti qui con me, non te ne devi andare, ti prego, c'è una sensazione terrificante. Marcello, tu cinema, teatro o televisione? Cinema. Cinema. Sì, sì, sì. Film preferito, sì. Beh, sicuramente C'era una volta in America. Fermati, e anche Il cacciatore. Fermati. Senti un po', io me lo sento, un pezzo del trailer, anzi, di Once Upon a Time in America. Dai. Morardi è il più grosso, lo vuoi capire? Da oggi è lui che ha in mano tutta la combinazione. Appunto, e da domani stai sicuro che avrà in mano anche lui. Morris, come va? Piacere di conoscerti. Ma non devi chiamarmi signor Monaldo, come dice lui. Io va bene, questo era per sottolineare un attimo il grande Morricone, la tragedia di questo film che ha vissuto, perché il film in America è uscito soltanto con la parte di Robert De Niro normale, né giovane, il vecchio è stato tagliato. E l'America ha combattuto Leone, ha detto fate gli affari tuoi, l'America la raccontiamo noi meglio di te. Lui ha avuto il primo malore lì e si è lasciato andare. Da lì credo che sia cominciato proprio un declino fisiologico del maestro. Lo sapevo. Fu un'offesa gigantesca. Poi lo rimontarono dopo la morte di Sergio Leone o nei dintorni, ed è uno dei primi 100 film della storia del cinema, e la colonna sonora che non ha potuto partecipare all'Oscar per quel motivo. Vedi tante volte. Sì. Come strana la vita, sì, capito. Perché questo film, che è appunto uno dei film più belli di sempre, ha la colonna sonora di più bella di sempre e non ha avuto nessun riconoscimento. È veramente strana la vita. Sì, in un momento che poi la grande bellezza invece esce negli Stati Uniti, racconta Roma, Fellignana, eccetera, 3 ore e un quarto di Struzzi, sì, e De Monaca fino alla fine, però porta a casa... Vabbè, non possiamo ricominciare con la polemica sulla grande bellezza, sicuramente gli americani hanno quella passione per Fellini, Sorrentino è il nostro nuovo Fellini, sì, e quindi inevitabilmente gli hanno dato questo riconoscimento. Assolutamente. Young Pope, l'hai visto? Hai visto qualcosa del giovane Papa? No, io sono una Netflixiana, non sono una Skyana, non ho Sky, e per cui vedo soltanto, le serie Rondoni, su Netflix. Come la vedi questa cosa? Sono nuove divisioni del mondo. Esatto, una volta eri... solamente romanisti laziali, esatto, per tornare... Eri ermetico, futurista, adesso sei Netflixiana o Skyana. Sì. Per noi che doppiamo le serie, dobbiamo andare in parallelo con l'America. Noi ci telefono il lunedì, ci arriva dall'ultima puntata di The Affair, la penultima... Trono di spade, cori. Chi sono? Ti preoccupa. Mamma, che difficoltà. No, subito. Che tu ti preoccupi, dici chissà chi sono, devo entrare nella parte, sì, quando? Cioè, io l'altro giorno ho doppiato Capitan Fantastic di Viggo Mortensen. Mi hanno detto fino alla storia. No. Andiamo. È pazzesco quel film. Sì, è meraviglioso. Sono uscita pazza perché l'ho vista. L'hai visto in originale, sì, però sì, devi tornare a vederla adesso. Insomma, ma lo tornerò a vedere. Perché penso che sia una delle più belle storie tra padre e figli. Mai meraviglioso. Scritta. Film meraviglioso. A parte la voce che la condizionerà per il resto del film. Tra pochissimo, rimanete con noi, mi raccomando. Voice Anatomy. Anatomy. Eccoci di ritorno, signori miei, sono quasi le 15 in punto, mancano 3 secondi, facciamo come a Capodanno, dai, 2, 1, ecco, le 15, è cominciato anche il derby, così dall'altra parte Mauro Meconi si tranquillizza un attimo, non cambierà la faccia, ha detto qualsiasi cosa accada. Ho giurato che ti mando a teatro alle 3:30, sei in teatro, sì, quindi rimane ancora questi. Stai tranquillo, Pino. Poi quando non mi vedrai più, capirai che sei sparita. Sono sparita. Poeticamente sparita. E sei rimasta andata via. Sì. Però adesso tu cominci la tournée, te ne vai pure in giro. Sì, ce ne andiamo in giro. Andremo a Milano, Genova, Bergamo, Brescia. Poi cominceremo a fare un po'. Poi ce ne andremo un pochino a Spolete, tutta l'Umbria, poi giù in Puglia. Insomma, una bella tournée, sperando di fare e replicare il successo dell'anno scorso e quello, insomma, ma che stiamo ottenendo. Ovviamente sono teatri importanti e la gente, insomma, devo dire che ci sta aspettando, di questo ne siamo molto felici. No, ma questo sicuramente. E cinema? Cinema, dunque, è uscito da poco il film di Edoardo Leo, che vuoi, sì, che sia, che è ancora nelle sale, e quindi continuo a sponsorizzarlo perché secondo me è un film necessario, dove si parla di social in maniera molto intelligente e può essere un buon vademecum per divincolarsi all'interno di questo stravagante mondo. Continui dopo I Perfetti Sconosciuti, continui a navigare. Ma ormai questa è la vita, sì. Pino, non si può prescindere, secondo me, facendo commedia, dai telefonini, dai social network, perché ci hanno completamente modificato il cervello, sì, e quindi anche le vite, e non si può assumere far commedia senza parlare anche di questo. Tu controlli il telefonino di tuo marito? Ma no, più che altro lo uso quando mi scarico, insomma, come a controllare. Ah, per cui tranquillo. Sì, no. Tanto lui c'ha l'altro. Vabbè. Ma smetti, ma assolutamente no. Come no, state combinati? Rondoni, poeta, tu come sei combinato con i social, eccetera, eccetera? Si usano. Sai, la poesia c'è il vantaggio che, essendo molto veloce e molto social, appunto, può usare di tutto. La poesia è come l'acqua, quindi la metti sulla carta, va sulla carta, la metti sulla carta elettronica, va sulla carta elettronica. È un po'. Dove metti stai insomma? Dove la metti? Va, cioè, questo è il motivo per cui si dice, sbagliando, che la poesia ce n'è poca, perché si vedono i libri, ma i libri è poco della poesia. La poesia gira, se apri qualsiasi social c'è uno scambio di poesia impressionante. Questa è l'epoca in cui la gente si scambia parole. E se uno cerca parole che abbiano un po' di sapore, un po' di sale, un po' di sangue, un po' di zucchero, dove la va a cercare? Cerca nella poesia. Lo sai che non è uno che non trova le parole, Dario. No, infatti non ce l'ha. A un certo punto lo dice la Merini, no? Quando il medico le regala una macchina da scrivere, dice: non mi serve una macchina, mi servono le parole. E lui mi dice: non hai più parole? E lei risponde: ne ho troppe. Cioè, lei serve un modo per veicolare tutto quel mare che ha dentro di sé. Ma sai, infatti la poesia, in realtà la poesia nasce quando ti mancano le parole. Cioè, o meglio, quando le parole solite non bastano. Quando di fronte a un albero, un colore, un volto, le parole che hai di solito non bastano. Allora cominci, come quando ci si innamora, io lo spiego così, quando ci si innamora non è che dici Laura Rossi ti amo, ma cominci a inventare dei soprannomi, perché devi dire a lei cerbiattino mio, scricciolo, per dire la dolcezza che ti arriva attraverso di lei. Sì. Questo soprannominare il mondo è la poesia. Hai capito? Non lo sapevo. Perché ti ho invitato? Non lo so. Vedi che... No, nel senso... Per darmi un soprannome. No! Patatina! No, Amorino. Come ce l'hai un soprannome tu? Io Nani. Mio marito mi chiama Nani. Nani, ma certo, come 80. Vabbè, ma Nani mi chiamano di Nana. Nani è un'altra cosa. Nani no, è dolce. No, penso Nani che... è un vezzeggiativo di... Sì. Non lo so, no. C'è Nani, quello del centrocampista, no, punta. Basta che non sia Nanà, di Zola, che era, insomma, una poco di buono, ecco. Sì, no, esatto. È Nani. Nani. E tu invece, Marcello? Con i social, beh, benché abbiamo un'informazione molto amica, vabbè, che già basterebbe, però social, diciamo che i social li usiamo abbastanza. No, quasi, cioè praticamente vivete di social. Solo, quindi molto... Esatto, già oggi... Sì, molto. Vabbè, Facebook, oggi è giornata Twitter, libera. Anche il ben noto blog, diciamo così. Sì, per sì, cui sì, lo vivi da... Sì, ma li dobbiamo soprannomi, utilizzare... Hai un vezzeggiativo che caratterizza la storia con tua moglie? No. Non ce l'hai? No. Non ce l'hai. Non ce lo vuole dire, ce l'ha, ma ovviamente. Non ce lo vuole dire. Ma è evidente che non ce lo vuole dire. Io il linguaggio non verbale, Pino, l'hai appena detto tu. Ho capito, il mio lo dico perché è una parolaccia, ma... Tu Rondoni, sei sposato? Sì. Scusami, questo coso. Quattro figli con la stessa donna. Con la stessa donna. Con la stessa donna. Eroe nazionale. Una santa praticamente, bisogna fare 5 monumenti. Il tuo ultimo libro è La natura del bastardo. Sì, ma non è un libro autobiografico. No, ecco, no. È un libro sulla natura, cioè sulla natura. Sul fatto che bisogna imbastardirsi per andare avanti, la lingua, le razze, cioè noi siamo ricattati da un'idea di purezza che sta sterilizzando la vita, i protocolli perfetti, le mani pulite, il chilometro zero, il bio, un'idea mentale di purezza come se la vita potesse i vegani, come se la vita potesse purificarsi, invece la vita deve imbastardirsi, anche Dio si è fatto carne, si è diventato uomo, si è imbastardito pure Dio, quindi per andare avanti la vita deve procedere imbastardendosi. E la purezza, semmai, è un fiore che cresce improvvisamente quando i rapporti si imbastardiscono veramente fino in fondo, e allora nello sguardo della persona con cui ti sei imbastardito fino in fondo sorge un fiore di purezza un po' inaspettato, che è un dono. No, questo secondo me è un tentativo da parte dell'uomo di voler controllare necessariamente la propria vita e il percorso della propria vita, mentre prima c'era appunto il famoso fato, la predestinazione o il destino, punto, che faceva il resto della parte. Invece oggi è come se veramente volessimo controllare tutto troppo e nel frattempo ci perdiamo il viaggio, e questo è un gran peccato. Io voglio parlare solo con Marcello, voi due non ci parlo. Io e Marcello dobbiamo parlare, siamo qui guardandoci in faccia mentre lì stanno giocando, siamo terreni noi, tu sei più razionale, come sei, Marcello? Essendo poi un avvocato. No, però diciamo la componente sogni. Irrazionale, sì, assolutamente, certo. Ti piace il sogno, sì? Molto. Come lo raffiguri il sogno tu? Tu ci pensavi a quello che stai facendo, che avresti fatto, lo sognavi? Sono un ideologo, diciamo così. Anche tu cerchi di raggiungerlo io... praticamente. No, io penso che non posso fare nient'altro, ecco. Tu hai sempre pensato a questo, insomma. Sì. Io sono stata rapita dal teatro proprio quando ero una bambina, e sono stata rapita dal teatro di nuovo da adolescente. E non qualcuno in famiglia fatto... o anche te sei figlia d'altri come no, me? No, io sono figlia d'altri. Mia mamma, esatto, cioè, era una donna molto comune che ha cominciato a crescere i figli smettendo di lavorare. Mio padre è un operaio, per cui proprio una famiglia molto semplice e umile, con un grande dono, che è il dono, insomma, del modello perfetto, perché si sono sempre voluti molto bene, si sono rispettati e in qualche maniera ci hanno insegnato questo, a me e mio fratello, a lavorare per ottenere quello che desideravamo. Tuo fratello che fa? È un commercialista, ma anche lui è molto molto capace, molto bravo, un bravissimo professionista. Insomma, i miei genitori sono molto fieri di noi, perché veramente ci vedono felici e realizzati. Ogni giorno ci svegliamo col sorriso. Quello è il segreto, vero Davide? Svegliarsi col sorriso, anche dici che c'è da ridere. Ti sei svegliato, ma già quella è una gioia infinita. È un dono e non va dimenticato. No, ma è un esercizio ginnico. Il più grande poeta della storia, uno dei più grandi poeti della storia italiana, che era anche un santo, che si chiama Francesco, sì, richiamava sempre la letizia. La Letizia è quell'atteggiamento, non è l'allegria stupida o l'ottimismo. O Letizia, forzato, una donna. O Letizia, la signorina, esatto. Letizia. Ma Letizia è questa, appunto, questo accettare il fatto che intanto sei il mondo, è un dono, ci sono un sacco di regali, devi solo stare attento a guardarli, questo è, e c'è qualche cosa che ti tiene legato alla vita, che è, per cui devi essere lieto. E questo è una cosa che oggi invece viviamo un po' un'epoca del risentimento, no? Sono tutti un po' arrabbiati e non capiscono bene perché cosa, no? Cioè, sì, sì, ognuno fa da maestro all'altro, dicendo, sì, questo come risentimento si deve comportare. A volte avvelena le cose in maniera sbagliata, ma perché manca una semplicità fondamentalmente, che è quello di essere lieti per quello che hai. E questo è un grande insegnamento che tutta l'arte dà, perché l'arte è una grande creazione, ma non è l'inseguimento del mondo perfetto o, come diceva lei, del possesso della vita. L'arte è una grande obbedienza, no? È una grande obbedienza alle cose che ci sono, alla vita che c'è, agli alberi che ti parlano, alle persone che incontri. L'arte fa questo. In questo senso gli artisti infatti hanno sempre una sorta di obbedienza e di umiliazione, no? Tutti pensano agli artisti come se fossero dei palloni gonfiati. A volte magari per carattere lo sono anche un po'. Sì, ma qualcuno non è, sì. Però quello è il carattere, non è l'arte. Certo. L'arte è un'obbedienza, un'umiliazione, non è un gonfiarsi, perché l'arte segue la vita, no? È seconda l'arte. Prima viene la vita, seconda. E poi viene l'arte. Ti svegli col sorriso, Marcello? In questo periodo sì. Dai, normalmente sì. È la cosa più bella del mondo, tesoro mio. E poi non conta l'umore. No. Conta l'amore, che sono cose diverse. Umore e amore fanno rima, no, ma non l'umore, ma l'amore. Sono molto diverse. Sono molto diverse. Ma che bella puntata, ragazzi. Senti, ma la vuoi leggere una poesia al volo di Davide? Così, hai senza averla mai leggere? Sì, leggere. Io la leggo volentieri, anche se la sua voce a me piace molto, però va bene. Grazie. Anche la mia non penso faccia schifo, comunque. No. La leggo. Hai fatto tutto da solo. Hai fatto tutto, che non sto bene. Non stai per tutto lo spettacolo, devi cercare di tagliare ogni due settimane, di firmi tre. Ogni tanto devo... Capito. Ah, ok, guarda, la scelta una molto molto breve, meno male. No, almeno breve, non rischio di far figurarci. Ma così breve? Sì, mortifichiamola la foglietta. Ma come? Già cominciamo con la mortificazione. Non la legge prima, fai il vero attore doppiatore, quello non che lo sto leggendo. No, guardami negli occhi. Ti sto guardando negli occhi. Farti con la musica. L'amore non ha contrari, nemmeno l'infelicità, nemmeno gli occhi spenti, amari, luce affranta, sempre sanguina, corpi tra i cartoni là, malora le stazioni del mio petto, sempre canta lui, bastardo perfetto. Il dolore felice di amare e non essere amati, l'ombra nel cuore è una immensa traccia, apri in questa strada di mare le braccia, è come non essere ancora nati. Applausi. Vabbè, no, insomma. Se me ne fai leggere una, t'ammazzo. No, Marcello, tu sei un amico. Non siamo molto più tranquilli. Quello è il mio mestiere, non è il tuo. Oddio, se tu te ne uscissi in una riunione al consiglio comunale un giorno, signori, destra, sinistra, centro, l'amore non ha contrari, nemmeno l'infelicità. La monnezza, Roma e buche. Stavo... Non mi vedo quelli dell'opposizione pronti a... Già so quali, insomma. No, vabbè, ma infatti io credo la poesia può salvare. Bella, sei stata brevina. No, invece non sono stata brava. Perché? Perché? No, perché non ho chiuso quando dovevo chiudere. Vedi, quando tu mi dici, un attore poi ci ripensa sopra le Guarda, cose. Guarda, se questa esce da qua dici che figura di merda, mi ha fatto fare pieno segno, non devo accettare di andare. Adesso sto andando all'Eliseo, quelle persone che dovevano venire hanno disdetto. Ma no, ma non sono così antipatico. Ma dai, allora, no, io sono sicura? Sono autocritica, che è la base dell'essere bene. Attore. Te lo fai dire da un doppiatore che è anche attore? Grazie. L'hai letta bene. Ma se tu mi offrissi la possibilità di rifarlo, la leggerei meglio. Questo volevo dirti. Dai, mannaggia, voglio vedere. Poi gli faccio risentire l'interpretazione, dai, che ha fatto prima. Mettetemi una musica, però, che va in controtendenza, non questa cosa. Mettetemi una cosa che faccia da contrappunto. Mettimi gli SDC, una cosa punk, una cosa zozza. Dai. Ma non sta bene, foglietta. Dai, sulla natura del bastardo. Mettiamo una musica impura. Io ti preferisco a mai Stati Uniti dei Vanzina a sto punto. Che davvero? Che vi lascio di più così. Falla così. Dai, la faccio coatta. Vai, un'altra musica a contrasto vuole. Io chiedo scusa. Trovata? Beh, poraccio. Dai, fatemi divertire pure voi. Ma come a contrasto? Se vuoi le Zeppelin. Sì, tipo una musica hip hop. Vai. No, vabbè, non c'è. Ma sì, perché in base alla musica che mi ispira. C'ha ragione lei. Sa detto Rondoni, ci credo. L'amore non ha contrari, nemmeno l'infelicità, nemmeno gli occhi spenti, amari, luce affranta. Sempre sanguina, corpi tra i cartoni, là, malora le stazioni del mio petto. Sempre canta lui, bastardo, perfetto! No matter how I try. l'acido. Senti, l'acido è andata male che te sei fatta prima di entrare, prima di andare in scena. Prendetelo un po' dopo. Adesso se... mettetemi un'altra canzone. No, scherzo. No, me la fa... Ma questo è un esercizio di stile straordinario. Sì, sì, è vero. Questo è vero. L'attore. È vero che il contrasto vince. È ovvio, la poesia già dolce con una cosa dolce diventa, no, diabetica. Vabbè, ma no, era un modo. Però così, sembrava un film, sembrava i Trainspotting all'inizio. Sì, eh? Dammi la vita, dammi quest'altro. Fai, no, sembrava molto... Faranno Trainspotting 2, lo sai? Sì, cioè, lo so, certo, capirai. L'hai doppiato, no? No, no, perché loro non c'ero quando... non ero uno di loro. Sono proprio curiosa. Io già nel Signore degli Anelli del 4 non già c'ero, nell'Hobbit, perché io sono Ramingo, per cui arrivo dopo. Nel prequel, non ci sto mai nei prequel io, no, no, no, non ci sto. Non ci sta, però sì, è vero, il contrasto anche questa non era male per niente. Eh certo, ma poi non è che tanto contrasto, perché non è una poesia proprio dolce, eh? No, sì. Infatti, cioè, bisogna sempre togliere quella patina di dolciastro che la scuola ha messo addosso alla poesia, eh? Che la, sì, poesia, che è venuto come la poesia è tutt'altro che dolciastro, eh? Tutt'altro. Bisogna tanto sempre stare attenti. Mi fu quest'ermo colle, no, ma tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Esatto. Figlio di puttana, non sei niente, amico, ok? Non sei proprio niente. Sì, va bene, non te ne do un'altra, però questa è la natura del bastardo, è bella adesso. Molto. No, ma lui ha scritto, dopo ne parliamo, c'ha dei titoli che mi fanno impazzire. Ce n'è uno sull'amore che mi piace molto, ma ne parleremo dopo, che è L'amore non è giusto, di Davide, che è bellissimo. Manuale di sopravvivenza di un cattolico libero in Italia. Beh, mi sembra un libro necessario, mi sembra. Sì, anni quegli anni 70, tipo Il banco del mutuo soccorso, canto nome di un prigioniero politico, bellissimo, bello. Il bacio di Siviglia, beh. Ma ha scritto delle cose bellissime, Davide. L'ho conosciuto da un paio d'anni e ho visto la sua brillante intelligenza. Non si parla addosso, non si sbrodola. E così, è la cosa deve più essere, brutta. Così deve essere un attore. L'attore che si guarda, si specchia nella sua bellezza, nella sua bella voce, eccetera, eccetera, non arriva a un metro da te. E come tu invece devi arrivare a 3 chilometri da qui e te ne devi andare. Ciao, davvero? Sì, sì, anche se hai fatto una figura brutta leggendo quelle due. Adesso io sarò depressa in scena e farò una pessima replica. Grazie, esatto, a te. Per cui fatevi ridare i soldi al Teatro Eliseo, questo spettacolo. Il peggior spot è uno spettacolo teatrale, sì, possibile. Non andate al Teatro Eliseo. Fino a quando rimani? Fino all'11 dicembre. Fino alla prossima settimana. Sì, c'è tutta una settimana. Però mi sembra che le persone già abbiano prenotato, per cui in teoria o si fanno ridare i soldi. Esatto. Ma io non me lo auspico. È complicato. È un po' complicato burocraticamente. Vi tocca venire e subire questo 30 di delirio. E perché? E portate qualcosa dei Led Zeppelin, sì, quando lei in scena reciterà. C'è musica in scena, sì. C'è una musica bellissima composta da Pive e Aldo De Scalzi. Ah, e beh, poi grandi, a livello sui saluti, sui saluti abbiamo i Cure. Beh, quale? Sì, abbiamo Close to Me. Ah, vedi, quindi, a proposito di contrasto. Sì, è molto bello. Poi è molto bello, sì, è proprio liberatorio. Devo dire che lo spettatore ci restituisce tanto calore, perché per 1:30 comunque l'abbiamo portato negli inferi, quindi hanno bisogno a un certo punto di vita. Allora, però signori, è uno spettacolo catartico, questo mi sento di dire. Per cui, signori, che abitate nello stesso palazzo della Foglietta. Già sono visto venuti che, tutti loro, facciamo visto, del palazzo accanto. Visto che è la pazza della porta accanto, occhio alle riunioni di condominio. Anna Foglietta, grazie a tutti. Grazie davvero. Buon pomeriggio. E tanta merda, come si dice. Bocca al lupo, ciao. Crepi. Complimenti. Grazie. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. Voice Anatomy. Scusate, stavo leggendo tutti i messaggi che non ho letto, sono bellissimi da parte di tutti per la puntata intensa, eccetera, eccetera, eccetera. L'ultimo è Anna sei buona, mo è andata via Anna, ma quello è quello più terreno di tutti quanti. Ci ha raggiunti, perché visto è diventata una trasmissione osmotica, il bravissimo attore e doppiatore Luca Dal Fabbro. Ciao, buonasera a tutti. Voce caratteristica assoluta. Carattere, voce carattere, caratteristica e carattere. Carattere, scusa. No, volevo... quello puoi dire quello che vuoi, senza problemi, assolutamente. Ti posso trattare come sono preparatissimo. Veniva, hai visto che trasmissione però. Molto culturale, molto interessante. Non ce lo sei, io non so se conosci, sono all'altezza di fare una... Infatti io venivo qui e dico cazzeggeremo un pochettino, pensavo io tra me e me. Ma sì che cazzeggiamo. Invece parlate di cultura, poesie, anche vari modi di reggere la stessa poesia. Beh, ma anche quella è casa tua, quello è il tuo core business, che no, scusa. Insomma, tutte cose complicatissime. Le cose che fai dalla mattina faccio alla sera. Anche dalle... Beh sì, certo. certo, quello è vero. Cioè, non è che fai altro, non è che vai in giro, no, a mettere antenne, con tutto rispetto. No, faccio il papà, cerco di fare il papà. Quanti figli hai tu? Io ho un unico figlio di 15 anni, quindi un adolescente mi sta diventando, quello è un problema grosso. Ma tu l'avevi superata già da un po'. E lì capisco me. I miei genitori, lì capisco tantissimo. Ma dopo, i miei, no, Davide, genitori. Marcello, si diventa, uno capisce i genitori quando diventa genitori, certo, uno certo. diventa, capisce i professori quando diventa professore, sì, dice, sai che ne erano così stronzi i professori, ma erano gli alunni che erano un po' così. Troppo così. Qual è la tua attrice preferita? Direi Scarlett Johansson, benché preferisca le more, però lei ha qualcosa che... c'è Marcello che ti vuole parlare, Scarlett. Pronto, ciao Marcello. Oh, Scarlett, ciao. Ciao Pino. Ciao, lei, sente un po' satura, come mai? Parla italiano, guarda. Sì, è Domitilla D'Amico è la voce italiana di Scarlett Johansson. Non, cioè, aspetta che cambiamo telefono, perché insomma una voce del genere, mortificarla in quel modo, noi che facciamo Boys Anatomy. No, Luca. Assolutamente, io non lo faccio Boys Anatomy, ma va bene uguale comunque. No, stai facendo, perché questa è la trasmissione. Si penso fosse un serial. Voice Anatomy è questa. Andiamo bene, brutto ospite, ma guarda che... Scusa. No, io non so. Poi dici, quando mi invidi alla trasmissione, non lo ma dovevo sono fare. Anziano, tu io ho il vantaggio di essere vecchio oramai quasi. Ecco, quindi proviamo adesso. Tranquillo. Scarlett, ci sei? Sentiamo meglio? Un po' se parli? Di più un po'? No, proprio adesso non c'è più. È andata via Scarlett. No, non c'è più, dai. Volevamo fare una sorpresa a Marcello, farlo parlare con Scarlett Johansson, non ci riusciamo, forse la moglie. Mi sono salvato, dai. Sì, che hai fatto? Tua moglie in ascolto. Invece tu hai un attore o attrice preferita, Davide? No. No, ti piace no. quello... Mi piaceva molto come donna, così la Fanny Ardant, sembrava un tipo di donna fantastico come... come attrice, anche brava. Poi c'è un cinema straordinario che credo che tu debba vedere se non l'hai visto, questo regista 27enne Xavier Dolan, che ha fatto Mammy, l'ultimo film, parlato, è la fine del mondo, sì, è la fine del mondo che esce adesso. E i primi film, è pazzesco, un ragazzino. Proviamo un attimo, Scarlett. Hello? Ecco, ci sei amore mio. Mi sentite? Telefonica, va bene, insomma, un po' meglio. Ecco qua. Fai un complimento a Marcello, che almeno va a casa tutto contento. Marcello, hai una voce bellissima. Ah, grazie. Io ti sto ascoltando da mezz'ora. grazie. Non ti sei annoiato. Hai sentito il tuo collega dal Fabbro? Certo che l'ho sentito, anzi lo saluto tantissimo. Ciao Domitilla. Ciao amore. Tutto bene? Sì. Sì, per il momento sì. Telefonatevi domani a casa. Va bene. Stai vicino al microfono dal Fabbro. Hai ragione. Ma io non so. Ma facevo un po' di campo, facevo campo. Ma tu ti rendi conto? Chiami loro, lui che è il capo del consiglio, l'altro un poeta, il nostro portavoce Sandro, e c'è l'unico che parla lontano dal microfono, l'unico che ci lavora col microfono. Ma io dico, ma perché non volevo disturbare troppo. Mi fai campo col microfono. Sì. Domitilla tesoro, devi tornare ospite, credo anche sì. la prossima settimana, che tu sei stata il primo ospite di attrice, doppiatrice di questa trasmissione ormai un anno e mezzo fa, e ha portato anche fortuna, la tua grande professionalità come gli altri dei nostri colleghi, visto che poi la trasmissione si è aggiudicato il premio Annio Flaiano come miglior trasmissione radiofonica dell'anno. Bello, sono molto contento. Pino, te lo meriti tutto, per perché cui... è veramente interessante. Ho anche ascoltato Anna Foglietta, guarda, proprio simpatica. No, lei è persona piacevole, interessante, è intelligente. La poesia. Sì, in tutti e due i casi. Infatti Anna Foglietta è uno dei quei rari casi in cui il talent, magari come li chiamano quando si doppiano i film a cartoni animati, funziona. Sì, dovrebbe funzionare, infatti credo che... La... Ma anche tu funzioni però. Io so talent, io sono un doppiatore. Però anche talent, sei un doppiatore. Un doppio talent. Sono un doppio talent. Io li odio i talent. No. Grazie, torna a fare la mamma. Vai, Domitilla, preparati per domenica prossima, però. Ciao, preparati. Sì. Ciao amore. Ciao. Hai visto? Ti ho fatto fare anche la sorpresa tipo la Garra. E non dall'Argentina, perché lei vive qui, per cui. Come lo vivi tu il doppiaggio? Beh, guarda, non sono un esperto di queste cose, non mi addentro. È una traduzione, comunque. Sì, è una traduzione. Ecco, devo dire che quando sento le polemiche sul fatto ma bisogna non doppiare i film, mi sembra tutto un po' stucchevole, perché è chiaro che il passaggio da una lingua a un'altra non è per forza una perdita, no? Cioè, è come se dovessero tradurre il tuo libro in inglese, in francese o in spagnolo. Noi viviamo nella traduzione. Quando saremo in paradiso, io dico sempre, in paradiso non ci saranno traduttori, perché in paradiso tu arrivi e dici e ti capiscono tutti. Invece qui siamo in un posto un po' più incasinato, che è il paradiso, e non ci si capisce. No, a volte anche se dici mamma ti devono tradurre. Qui la traduzione, anzi, è la vera vita, no? La che poi può essere buona o no, non bisogna può farla bene, cioè, però bene o male, ma non è cattiva, si diciamo vive traducendo. Negli ultimi 30 anni ha pure avuto una grande evoluzione il doppiaggio, ma no, poi in Italia lo facciamo bene, sì, no? Si sa che il doppiaggio, cioè, si fa bene e si doppia tutto, ed è anche un segno di amore per la propria lingua, non bisogna vergognarsi della propria lingua. Questo credo che sia anche un po' un segno di provincialismo che dovremmo anche smettere. Sì, anche infatti, perché chi gira un po' il mondo sa quanto viene amato l'italiano proprio per la sua bellezza culturale, sonora, musicale, quindi vergognarcene noi mi sembra proprio stupido. Se siete davvero voi Anatomy, perché non ci fate conoscere le voci dei grandi attori internazionali invece di che riproporre quelle dei pur bravi attori italiani che già ascoltiamo? Che, come faccio? Io chiamo De Niro, gli dico di parlare, magari. Magari. Me sto a taglià, oggi puntata bellissima, io sono innamorato di Domitilla. Complimenti a Luca, bellissimo il discorso dell'amico Rondoni. Vabbè, ciao, vabbè, questo è un discorso politico, non si può fare oggi, non okay. Si può fare. Apprezzabile questo, però insomma non navighiamolo, anzi no, oggi no. Giornata, si deve andare a votare, sì, no, ni, quello che volete, ma si deve andare a votare. No, questo, possiamo soltanto fare pubblicità al progresso e basta, esatto. Senza entrare nei particolari. Da Fabio, dopo preparati che ti faccio leggere la poesia, poesia o dei vabbè. Nostri amici. Della cardiopoetica. Perché sono tanti poeti. Oggi sì, perché l'altra settimana abbiamo invitato questo gruppo di giovani poeti che hanno vinto praticamente tutti i premi italiani a disposizione, al premio Alda Merini, a quello di Pierpaolo Pasolini, eccetera, e hanno avuto un grandissimo successo. Bene, bene, perché bene, sono bene, veramente bravi. Oggi, avendo invitato il Del Piero, il Totti, il Pelé della poesia, non potevano non essere presenti per incontro, non credo scontro, però perché magari c'è spazio pure per quello, perché insomma sono generazioni diverse. Un derby poetico, visto che c'è un derby meno poetico che ancora è sullo 0-0, ma non chiamate, non lo sappiamo, non tutti lo sappiamo. I convocati, non li chiamate mai, mi raccomando, perché mai una gioia non lo voglio sentire. Lui mi starà sentendo su da Milano, io non voglio. Allora, la tua vita, caro Marcello, da domani scorrerà in maniera incasinata, se sì, se no, se ni o se qualsiasi altra cosa. Però vabbè, speriamo che vada come deve andare, non dico io, io credo che gestire con capacità, a prescindere dal fatto, non è una cosa facile, è una partita gestire complicata. Questa partita, insomma, complicata. C'è una grandissima pressione, chiaramente Roma è nello stato che vediamo tutti i giorni, insomma ci hanno lasciato in una situazione molto complicata, è chiaro che io credo, insomma, che se uno piano dà piano una possibilità, i risultati si positiva, cominciano a dovrebbero piano appoggiarlo piano. Tutti, no, Dario, adesso non parlo delle sue, del biallo, del giallo, del verde, del nero, dico sempre che se c'è una persona anche che la pensa diversamente da me e ha un'idea brillante per aiutare il popolo, la gente, credo che debba essere appoggiata da qualsiasi parte venga. E credo che in Italia ci sia un gran bisogno di politica. Sì, sì. Certo, anche perché, come ogni tanto provo a spiegare a qualcuno con cui si ragiona di queste cose, il fatto che la politica sia delegittimata fa comodo solo a chi ha già potere. Certo, e quindi bisogna che la politica sia forte, poi appunto fa parte del gioco della politica se abbiamo idee diverse, programmi diversi, ma la politica debole fa comodo solamente chi ha il potere dei soldi o che ha altri tipi di potere. Quindi in Italia veniamo da 20 anni, 25 anni di demonizzazione della politica, e questo è un grave errore culturale e soprattutto per il bene della gente, perché se la gente non gli dai la politica, così gli dai il bastonato in testa o gli rubi i soldi, non è che c'è altro modo. E questo credo che sia un grave problema, non è solo italiano come questione, perché è una dinamica che si è vista in, certo, tanti paesi del mondo, certo. Però questa è una cosa che gli italiani dovrebbero cominciare a ricomprendere, che non si fa antipolitica, contro politica, si fa sempre, no, politica, si fa sempre politica, e bisogna farla. La politica è la mediazione degli interessi e dei bisogni che si hanno, e se non c'è la politica è peggio per tutti. Io decisi di entrare nel movimento proprio quando sentii un Presidente della Repubblica che distinse tra politica e antipolitica, affermazione che non ha assolutamente senso, perché ogni persona, insomma, può costituire un suo partito e partecipare alla vita pubblica, e condivido quello che diceva, che negli ultimi anni c'è stata proprio una perdita da questo punto di vista. I partiti una volta sostenevano delle ideologie forti, questa cosa si è persa, oggi sono dei centri di potere, quindi sarebbe importante recuperare questa, anche la partecipazione da parte dei cittadini alla vita pubblica. E rimetterli al centro del mondo, magari. Assolutamente, assolutamente. Torniamo all'umanesimo. L'Italia è guardata in giro per il mondo, a me capita di girare tanto, perché abbiamo alcune caratteristiche. Una è il fatto che siamo fondamentalmente anarchici, cioè... Tu sei proprio nel senso che figura di Rondon, non va in televisione e radio, ma lui è l'Italia ci pensi, perché è bella Macerata, è bella Pesaro, è bella Pisa, è bella Firenze, è bella Siena, è bella Forlì, è bella Cesena, perché ognuno faceva i cazzi suoi, cioè, fondamentalmente ognuno, cioè, cercava di essere bello per conto suo. In questa strana gara di bellezza l'Italia è diventata meravigliosa. È quindi da una parte siamo anarchici, ed è sempre stata la nostra capacità, e forse dovremmo esserlo ancora di più, che non vuol dire antipolitica, cioè vuol dire essere anarchici, che è una forma di politica da una parte, e dall'altra parte però siamo sempre stati in grado di coagulare alcune forze intorno a alcuni grandi beni, e i nostri grandi beni non sono né il petrolio, né il rame, né l'acciaio. I nostri grandi beni sono il gusto, che va dall'arte alla cucina, al design, il gusto. E per questo non bisogna sbagliare a tramandare il gusto. Un giorno devi fare una trasmissione contro il modo in cui si insegna l'arte e la musica o la letteratura a scuola, perché bisogna cambiare radicalmente quello, altro che la Costituzione. Benissimo, allora siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, ma poi continueremo con Luca Dal Fabbro. Io invece saluto Marcello, che deve tornare al lavoro, e nello stesso momento un orecchio sicuramente al derby ce lo mette, anche mezzo occhio. Anche a te per il derby. Dalla regia dicono che state attaccando solo voi, quindi siete nettamente favoriti. Questa mi dà tanto idea, no Davide? La goliardia poi ti torna razionalmente dopo aver parlato. Il bacio della morte finale, esatto, per andare via. Esatto, l'anarchia, il core business. Comunque, di questa nazione. Abbiamo detto un caffè in Campidoglio, esatto, no? Comunque esatto. Vada. No, la differenza di gol subita, nel senso, se doveste vincere voi 3-2 porto un caffè, se dovessimo vincere noi 3-1 ne porti due tu, cioè la differenza gol. Con va fotografia bene. Annessa. Buonasera a tutti. Marcello Vito, grazie amico mio di aver fatto, purtroppo c'è stato anche silenzioso, non capisco per quale motivo. Sandro Gugliotta, fai sentire la tua voce, sei il portavoce. Salve a tutti. Eccolo là, ha parlato Sandro. E dopo questo, Sandro, grazie davvero, grazie Marcello, buon lavoro a voi, a tutti, mi raccomando, litigate il meno possibile. Noi continuiamo la nostra trasmissione con l'amico Luca Dal Fabbro e Davide Rondoni. Sanatomi. Bentornati signori miei, 15:35 minuti, al mio fianco ci ha raggiunti, l'avete sentito poco fa, l'amico e doppiatore e attore Luca Dal Fabbro, alla mia destra Davide Rondoni, che mi fa una sorta di, non so fra Caronte e Virgilio cosa scegliere come traghettatore o come accompagnatore. Beh, Virgilio sicuramente, essendo un poeta. Virgilio mi sembra poi perfetto. Poi Caronte non è che porta Caronte vicino, sta no, lì, però è vero, sì, avete ragione, Caronte porta le anime dannate, eccetera, io sono forse un'anima dannata, come un buon vino. Datti una chance, dai. Esatto, dai, essere. Ancora. E siccome era in radio, ogni tanto ci raggiunge qualche amico a vedere, a sentire la trasmissione, lui è stato anche ospite, direttore del personale di una multinazionale molto importante, ha a che fare con la voce, visto che deve governare, come si dice, no? Una volta erano risorse umane, ma è tuttora risorse umane? Sì, assolutamente, buon pomeriggio a tutti. Non è bello per le risorse umane, mi dà idea di massificazione dell'individuo, Rondoni? Sì, è una traduzione dall'inglese in realtà, che noi abbiamo cominciato Human a usare. Human Research. Sì, esatto, che in quel modo ha un altro suono. In italiano risorse umane sembra un po' veramente dei sacchetti di uomini, cioè dei pacchi di uomini. Di uomini. Non è proprio il massimo. No? È come tu sei direttore di risorse umane del doppiaggio, sì, assolutamente. No? Io sono una tua risorsa umana. Anzi, la prossima settimana devo stare da te ancora. Vedi, buono sapere. Può fare il carceriere questa serie di Affair, che è una bellissima serie. E fai quell'attore vicino della mummia, quello che fa la mummia. Sì, io non so il nome, però. Brendan Fraser, vedi, che è diventato 120 kg d'uomo. Prima era bello, un bel ragazzo. Prima la mummia. Prima è il protagonista della serie sulla mummia, no? Questo bellissimo ragazzo americano, eccetera. Quindi adesso si è magnato altri tre attori, perché una cosa inguardabile, e allora lui ha chiamato me, capito? Perché riempi bene, tu sei uno che riempie, sei un riempitore, tu sei su tutti sti buscemi. Beh sì, sicuramente quello degli attori è quello che mi ha dato più soddisfazioni. Io mi sentirei un pezzo di Steve Buscemi. Scegli adesso, perché poi il bravo Mauro Meconi deve scaricare quasi tutto per prendere una piccola parte di un film, perché non è che se può. Beh, il pezzo della Mancia. Abbiamo Le Iene e Armageddon. Iene, sicuramente l'andrei su. Intanto poi sentiamo anche Armageddon. Va bene, però Le Iene sicuramente più divertente. E allora sentiamoci un momento del grande. Ma già ce l'hanno lì pronto? Certo, noi la trasmissione la prepariamo una settimana prima. Sì, Alessia Navarro e Marco Mauro Meconi sembrano due così, ma ragazzi, amica. Sì. Perché io ho iniziato, perché io ho aperto una radio, stiamo parlando veramente della preistoria, e era tutto molto più informale ancora, non c'era una grande preparazione, si andava molto a braccio, stiamo parlando del 76-77, Gli anni del 1900, gli inizi delle radio private, quando si sentiva tutto il disco. Esattamente, pazzesco, si sentiva, no? Quasi solo musica. Esatto, ma era impossibile, tu lo potevi sentire a casa tua il disco, no? Il disco, parliamo di vinile, che è tornato così tanto all'arrembaggio, che è meraviglioso. Quello è un oggetto. Beh, perché c'è un suono caldo che non ha invece i supporti adesso del E siamo analogici. C'è poco da fare. La cosa più bella è anche il microfono valvolare, no? A differenza del transistor. È più caldo. Non c'è niente da fare, non è vero? Una Dark Side of the Moon su vinile. Come la pellicola, ancora non sono riusciti, esatto, a ridare quella che è calore. Puoi farlo a, come se non sei affezionato anche tu. Ma adesso le cose vintage non mi piacciono tanto. Cioè, No. Ma non vintage, cioè, il vestitino messo anni 70. No, è che esiste in tutte le dinamiche, quando c'è una fuga in avanti che tende un po' ad appiattire, si corregge il tiro ricercando quello che ha spessore, no? Quindi in questo caso, appunto, il vinile rispetto alla riproduzione elettronica o di altri supporti è una correzione rispetto a una astrazione, a una incorporeità, no? Il vinile era anche un oggetto, non era solamente il supporto e si andava a cercare, no? E quindi c'era un aspetto proprio di recupero di una dimensione della ricerca della musica, dell'esperienza della musica, che ha qualcosa anche a volte di feticista, di ricerca, di collezionismo, di scambio, no? Scambiarsi un pezzo di musica scaricata sul computer non è, mentre invece un vinile lo regali, cioè è un gesto, c'è cioè un gesto umano. Non è Rondoni, hai pensato di fare l'applicazione Rondoni? No. Uno clicca. Per fortuna, per carità. Ma come per carità? No. C'è da fare da qui a giugno, la domenica? Facciamo un'applicazione. Sto lavorando con dei ragazzi per fare il primo game poetry. Tu sai che game ha superato il cinema da tanto tempo, sì, no? Voi siete rappresentanti un mondo finito, potremmo dire così, no? No, scherzo. Luca, tu mi hai detto prima complimenti a questo grande uomo che non conoscevo. Beh, per Davide Rondoni, voi sanatomi, finisce. Siamo qui. Cacciato via. Rimane Annese, Alessandro. Cacciato via Annese. Annese Rondoni. No, però è un fenomeno impressionante questo dei game. Adesso ho fatto... E come lo vuoi organizzare questo game? Sto pensando, perché sai, una volta i game sembrava appunto di quelli che sparano ai mostri, che sbucano dagli altri. Esatto. Invece no, adesso i game sono veramente dei film, fatto con una capacità di riproduzione. E chi ve lo legge questo? Chi ve lo doppia? No, chi ve lo interpreta? Pensavo a te, infatti. Allora vedi che tu anche fare tutte le voci potresti fare. No, posso che fare degli altri colleghi, perché come vedi qualche modo rientriamo, usciamo dalla finestra e rientriamo dall'altra parte. No, ma sicuramente servirete ancora come... Siamo riciclo anche noi. Ho detto non che voi siete finiti, siete rappresentati di un mondo finito, e voi vi riciclerete come sempre, se avete fatto come tutti gli artisti. L'artista vero non finisce mai. Finiscono alcune forme di arte, poi gli artisti cambiano, trovano altre forme, altri supporti, altre cose. Se è un artista vero, se invece uno è legato solamente a un pezzo di mondo particolare, difficile. Senta, muore quel mondo, muore insieme a lui. Dante Alighieri non abbiamo neanche il manoscritto. Voi sapete che non abbiamo. Ah, non c'è. Non abbiamo il manoscritto della commedia, come non abbiamo il manoscritto di Shakespeare, tu sai, no? Noi dei due grandi autori che hanno fatto la letteratura, c'è la fantasia. Non abbiamo gli originali. Quindi sai, questo è una specie di vuoto in cui però si è perso. È successo qualcosa che ci sfugge? Il fatto si è perso, non ce l'abbiamo. Poi se qualcuno ce l'abbia non lo sappiamo, però di fatto tu non hai il supporto su cui hanno scritto le due grandi voci della letteratura di tutti i tempi, no? Shakespeare e Dante. Questo cosa vuol dire? Che la loro voce sta proseguendo al di là di dove l'hanno fissata per la prima volta, e quindi oggi Dante lo trovi nella televisione, lo trovi nella radio, nei social, e Shakespeare uguale. Quindi, perché l'arte non è legata a che cosa la porta in giro, L'arte è l'arte, poi la porteremo. E mentre su Shakespeare si è creata una sorta di leggenda su tutto questo, che ha dato adito poi a mille momenti di letteratura, no? Eccetera, sono tutti gli altri scrittori. Si pensava fosse italiano, crolla Lanza, la traduzione del suo, sai che Shakespeare è una delle versioni. Beh, Camilleri ci ha scritto bene. Beh, non ci ha scritto beh, Camilleri come tutti i furbastri arriva dopo a copiare, no? Però l'hanno detto da tanto tempo, è una delle ipotesi. Di fatto c'è un fatto serio, che dalle opere di Shakespeare, da alcuni elementi, si capisce che Shakespeare probabilmente apparteneva a una cultura cattolica e quindi potesse essere addirittura un italiano, forse, o figlio di italiani, o tanto per la parola Shakespeare è la traduzione di Crolla Lanza, che è un cognome tipicamente siciliano del sud. Questo non è verificabile fino in fondo, ed è una delle ipotesi, però c'è questo mistero che però fa capire che l'arte prosegue. E vai, un'altra trilogia. Comunque era sicuramente un attore. Ronà, guarda la regia, già la vedo sta trilogia. Ma sentiamoci Le Iene, Steve Buscemi, la grande interpretazione di Luca Dal Fabbro. Ma che cazzo ci faccio io qui? Me lo sentivo che c'era qualcosa di strano in questo lavoro. Dovevo subito dire no, grazie, e filarmela. Invece sono cocciuto come un mulo. Ed è stato così anche ogni volta che mi hanno beccato a comprare l'erba. Sentivo che non dovevo fidarmi di quello stronzo. Però se non mentiva ed era thailandese vera, allora andavo via alla grande. E invece non era mai thailandese vera. E da allora ho giurato che se un lavoro non mi convinceva li mandavo tutti a fare in culo. E anche stavolta non l'ho fatto. E per i soldi, cazzo! Quel che è fatto, ci servi calmo. Che c'è di sbagliato? Ascolta. Gli sbirri non sono saltati fuori dopo l'allarme. Sono saltati fuori dopo che Mr. Blonde ha cominciato a sparare. Ma se ho visto i poliziotti appena è scattato l'allarme. No, ti dico che non è stato così, ok? Loro non si sono fatti vedere fino a quando Mr. Blonde non ha dato i numeri. Non dico che non fossero già là. Dico che c'erano. Ma non si sono mossi fino a che Mr. Blonde non ha cominciato a sparare su tutti. Sono sicuro che era una trappola. Andiamo, Mr. White, non te ne rendi conto anche tu. Con questa cazzata del Mr. No, White. No, aspetta, non dirmi il tuo vero nome, cazzo. Non lo voglio sapere. Beh. Donne giovanissimi, c'era anche Corvo, sentivo. Sì, ma tu hai una voce che è rimasta quella, Luca. Beh, insomma. Adesso si fa insomma. Oh, grazie. Però un pochino, quella freschezza un po' non c'è più, chiaramente. Passati 20 anni, credo. Buoni 20 anni. Eh sì, anche l'hai visto più, Le Iene, Alessandro? Assolutamente, fantastico. Beh, fantastico. Tu, Davide, non sì, sì, lo vedo. Vabbè, cioè, un film Tarantino che è stato loro veramente... non gli avevano dato una lira al film quando questo filmetto che vedo così da fare. Loro non guarda, molto... che credo poca gente capisca veramente quel piccolo, il medio film che possa diventare il cult della vita. Pochi, a parte il filmone, dice Guerre Stellari. Vabbè, grazie. Rocky 9, vabbè, c'ha un proseguimento, cioè, ma nessuno, se tu pensi al Polo Stallone con Rocky, girato anni prima di farselo produrre e ha dovuto far fare la regia, un grande, perché John Avildsen poi ha vinto l'Oscar, certo. Miglior regia, miglior film, eccetera, è così, è difficile, dai, uno mette il nome nel manifesto a un altro quando già c'è il nome, c'è poco da fare. Ah beh, certo. Restate con noi, un attimo di pubblicità, o che questo è il momento del GR? Ah, solo traffico. Vabbè, e via, come dice Cruciani, cazzo, vai, traffico. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, signori miei, 15:47 minuti, al mio fianco Luca Dal Fabbro, sempre Davide Rondoni, questa sorta ormai di applicazione Virgilio di questa puntata di Voice Anatomy. Alessandro Annese invece, un caro amico, ascoltatore, nonché è stato anche non solo fruitore di questa trasmissione, ma anche ospite, visto che insomma dirige a livello del personale un'azienda, una multinazionale molto importante, per cui ha a che fare con la voce e in tutte le lingue, poi, no? Perché voi parlate poi solo inglese lì. Sì, anche se devo dire, come dicemmo l'altra volta quando ero ospite, a prescindere dalla lingua, l'intonazione, il tipo di voce, hanno lo stesso significato, hanno la stessa importanza. Quindi questa è una cosa bellissima, nonostante le diverse lingue abbiano caratteristiche diverse, la voce mantiene comunque la stessa importanza. Sì, l'intenzione è quella. Se tu dici una cosa in inglese o in cinese, cioè, no, i cinesi e i giapponesi noi non riusciamo a comprenderlo. No, se sono allegri, se sono arrabbiati, sì, difficili. A volte siamo no, sta facendo una cosa comica. Dico, sì. Ma come sembra così arrabbiato? No, è comico. Sì. Con i giapponesi soprattutto. Questi siamo giapponesi è veramente... Tutti questi suoni sì, così. Ti amo, mi manchi da impazzire. Era questo. Sì, diciamo, cultura è molto diversa. Sì, no, siamo proprio su una cultura complementare. Poesie, tu hai tradotto in Oriente le tue poesie. Sì, ma una volta in India, un festival in India, c'era la traduzione delle poesie, venivano lette. Sì. E duravano mediamente un terzo in più della loro durata. Questo dialetto del Kerala, della parte del sud dell'India, oppure mi ricordo un'altra volta in Georgia, no? Anche in una lingua stranissima, e tu vedi che le poesie si allungano, no? Diventano stranamente più lunghe, perché più beh, sai, ci sono le costruzioni, sai, hanno delle lingue con delle costruzioni, sì, non c'è sin che il libro, sono molto antiche, perché alcune sono molto antiche, hanno proprio costruzioni. Proprio c'è una lingua, mi raccontava un mio amico, perché io ho visto che qualche traduttore si è arrabbiato, sì, no, qualcuno no, ecco, da traduttore dico che chi vuole tolga il doppiaggio, poi arrabbiato, accidenti. Abbiamo una lingua meravigliosa e noi traduttori siamo solo dei tramiti e umani, a volte sbagliamo anche noi, pur mettendo certo. Ma Carlo, assolutamente fondamentali. Qualcuno non ha capito, ma è Ligabue il tuo ospite? No. Ciao, hai dato la voce a Steve, il marito di Miranda, Sex and the City? Ah sì, sì. Ecco, sì, quelli sì, se lo sanno meglio loro di sì, noi. C'è un'attenzione incredibile. Luca d'Armageddon alla pubblicità, lo senti dappertutto, ti dicono. Da qualcosa, da beh, qualcosa sì, in più c'è una pubblicità che va molto mi manca solo radio, il metro e la Santa Messa, diceva altro. Grazie, grazie. Se lo sanno tutto. Però messa, ho letto tante volte il Vangelo, perché io avevo mia madre che si occupava della messa degli artisti. Allora, quando doveva sempre venire una Vanna Polverosi, anche lei artista, anche lei come artista, Nino dal Fabbro, tuo papà, grande direttore di doppiaggio. Io ho anche i nonni addirittura. Ma dai, finalmente un figlio d'arte, nipote d'arte. Chi erano i nonni? Beh, mio nonno materno, Manfredi Polverosi, era un cantante lirico, è stato un grande tenore, tenore leggero. E i miei nonni Polverosi c'ha questa idea di tenore, lirico. E i miei nonni, Ruggero dal Fabbro, il padre vero di mio padre, è un attore dialettale, stava con Baseggio, ma io sono vissuto come nonno Nino Pavese, fratello di Gigi, perché si era sposato mia nonna e poi hanno fatto Paila Pavese, che tu conosci. Ah, è vero, come no, certo. Infatti, è mia zia per me. Ecco, hai capito quante cose. Senti, Steve Buscemi sicuramente, ma tu c'hai un Paul Giamatti, c'hai John Turturro, John Pantoliano, Brad Pitt anche una volta, Brad anche Pitt tu, da In ragazzo. Vite dannate, Tim Robbins, Aaron Howard, del film più bello che ha fatto, forse l'unico, perché sì, fa parte di Happy Days. Anche quello, American anche Graffiti. Quello è un cult, infatti, come film. American Graffiti è primo film di George Lucas, poi fra altre cose. Sì, io mi sentirei però anche Steve Buscemi di Armageddon, perché Armageddon bene, è film, quelli apocalittici ma belli, quelli che ti fai la grimuccia, che ti abbracci tutti quanti, poi la tua parte è bellissima, anche lui quello sinceramente non me la ricordo. Era lui impaurito, non voleva partire con gli altri, stava con le donne assolutamente su tutte, c'era sta donna meravigliosa con due tette incredibili che c'aveva, poi torna e lei sta lì ad aspettarlo e ve sposate. Non ti ricordi niente. No, sempre vent'anni fa stiamo parlando. Capito, ma Armageddon sono film epocali. Ma tu lo sai come doppiamo noi a pezzi. Sì, quindi capito. Se poi tu non vai al cinema a vedere il film è difficile che. Ma non ti puoi non è. Sì, ieri sera, per esempio, vedevo un film, c'era uno parlava per mezz'ora, dico, ma questo sono io, ma quando l'ho fatto? Ma sì, no, non mi ricordo. Sì, quando uno supera i 5, 6, 700 film gli sfugge. Capito? 44 anni oramai sto toccando io, Sì, No, di nascita. No, lì so di più. Sono molti di più. Ho visto, sei del primo. Tu sei stato il primo gennaio a Capodanno. Hai distrutto la vita. Infatti, la prima cosa che mi ha messo mamma è dello champagne sulla lingua. No. Infatti, forse per quello mi piace molto il vino, probabilmente. Non lo so. Da lì è stato uno startup. Un imprinting importantissimo. Imprint importantissimo. Allora, sentiamoci, Armageddon, che lui non si ricorda. Steve Buscemi, film meraviglioso. Una passeggiata. Vuole valutare la mia massa cerebrale? Ho vinto il premio Westinghouse a 12 anni, primo libro pubblicato a 19, cos'altro? Due lauree conseguite presso l'MIT a 22, chimica e geologia. Ho insegnato a Princeton per 2 anni e mezzo. Lo sa, questa potrei definirla la stanza più repellente che abbia mai visto. Faccio questo mestiere perché la paga è buona, la cornice varia e mi lasciano usare gli esplosivi, va bene? Donna con un gran paio di tette. Donna con tette medie. Questo è Harry che mi tormenta. Questo è Harry quando dice che non sono all'altezza. Questo è Harry che mi dice che non posso sposare sua figlia. Grazie, apprezzo lo stesso. Si abbandoni. Ho preso una brutta botta alla testa quando era al liceo. Questa assomiglia a lei, però con le tette. Eccoci qua. No, stavo ridendo, a parte il ricordo di questo film, ma ci è venuto in mente con Alessandro, che è sempre puntuale dall'altra parte del vetro, non è soltanto un grande tecnico del suono ma anche un grande collaboratore. Mi ha detto è vero che lui è Carletto di una nota marca di sofficina, per quella l'ho detto quindi solo o devo dire, non è che uno esce qui andiamo a comprarli perché ho sentito la pubblicità, ma sai, certe cose è come la Coca-Cola, cioè la nomini perché tanto ormai non c'è bisogno di fare. Tu sei Carletto. Sono Carletto, Tu non hai fame? Mi fa ridere. Anche quello sono una ventina d'anni quasi. Che tu lo sei Carletto da vent'anni. Vabbè, no, vabbè, funziona. Però non mi regalano i sofficini, non mi hanno mai regalato. Perché fai male, tu devi chiedere, quando fai delle promozioni, io facevo quando sta a Canale 5 soprattutto, io alla fine sempre... Come perché sono buoni, Gerry buonissimi. Scotti è così, Mike Buongiorno era così, fai le gambe del prosciutto, ti arriva una forma a casa. Magari. Ma tu lo devi chiedere. Lanciamo la cosa qui in radio, se mi sentisse come... Non adesso mi ricordo Dottor Findus. Il dottor Findus. Capitan Findus. Guarda, mo' mi cacciano da Radio 24 per po' perché dici hai fatto un passaggio pubblicitario gigantesco. Vabbè, tu, io mi mangio, ma tu non lo so, magari ti piacciono, che ne so, non lo puoi dire, no, sono buoni, dai. Altri saluti, altri ringraziamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma parliamo ancora di te. Tu sei veramente figlio d'arte, nipote d'arte. Ma tu hai cominciato col doppiaggio? E cosa hai combinato? Io ho cominciato facendo. La prima cosa che ho fatto è stato un... Con le femministe andai alla Biennale di Venezia. Come con le femministe? Con uno spettacolo di Dasha Marini che si chiamava La Donna Perfetta. Ah, ok. E quello è stato il mio debutto alla Biennale di Venezia. Poi dopo ho fatto uno sceneggiato in televisione che si chiama 40 giorni di libertà. Ma questo ne parliamo fra un po', perché adesso dobbiamo andare in pubblicità. Vai. GR? Allora, pausa leggermente più lunga. A tra pochissimo con Luca D'Affabbro e mio amico Alessandro Annese, il grandissimo Davide Rondoni, e ci raggiungeranno i cardiopoeti di là. Sono già pronti. A tra poco. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Bentornati signori dopo questa pausa leggermente più lunga. Voice Anatomy qui, sono le 16:05, anzi 06 in questo momento, a parte Luca D'Affabbro, bravissimo attore doppiatore, ma stavo sorridendo ancora pensando a Carletto. È arrivato infatti un messaggio: Pino, te prego, fai leggere a Carletto una poesia. Sì, lo farò, ma non è Carletto, ma sarà Luca D'Affabbro che la leggerà. Sempre Davide Rondoni ancora per un altro paio di blocchi fino alle 16:30 rimarrà con noi e poi rimarremo in compagnia dei nostri amici della cardiopoetica che ci hanno riraggiunto. Stavolta siete due che avete lasciato Marco De Cave lontano. Sì, Marco De Cave ora è in giro per l'Europa. Per quale motivo? Sempre per le donne, sempre per le donne. Come per le donne? Ma i poeti non vivono con le donne lontana dai Rondoni. Appunto, la inseguono come questo qua, no? La inseguono, ma non la raggiungono i poeti, non la raggiunge la donna ideale. Il non raggiunge la sapienza. Ah. Però la donna sì. Sì, per fortuna sì. Ringraziando Dio. Vabbè, è diverso. Posso fare una domanda? Sì. Cosa sono i cardiopoeti? Allora, Fabio Appetito che stava parlando, dall'altra parte c'è Mariano Macale, giovanissimi, classe 85. Lui, cosa sono questi cardiopoeti? Visto che ci avete insomma, sì. Dottor Rondoni. Innanzitutto ben ritrovato, Pino. Grazie. I cardiopoetici, la cardiopoetica è un collettivo di autori e volendo anche di poeti e scriviamo sia poesie che prosa, e ci dilettiamo, oppure più che dilettarci forse soffriamo anche un po' scrivendo, e abbiamo fatto svariate pubblicazioni, vinto parecchi premi, questo, sì, vinto diversi premi, scritto qualche sceneggiatura, scriviamo anche in prosa per la verità. Questi sono i si sono uniti e hanno fatto questo quindi gruppo arcano. Insieme una poesia la scrivono insieme? No, le scrivono da sole, no. Ce ne ho anche qui alcune che vorrei farti leggere, non tutte, magari anche, soprattutto una di Davide prima che va via, poi rimaniamo con loro fino alla fine della trasmissione, dove tu rimarrai, non dai disturbo. Sono qui, sono qui. Per cui leggerai magari dopo una molto dei nostri amici. Invece volentieri. Fabio, anche tu sei più grande, quanti anni hai tu, Fabio? No, io ho 29 anni. È vero, sei, è finita. È finita, ma già da un tempo è finita. Avere qui dei Rondoni, che cosa vi provoca? Questo slancio immagino positivo che hanno. Non so, questo è già finita. Come? È decadente, è decadente la situazione. Come vi definite? Qual è la nuova cultura, la nuova ondata della poesia? Che cosa ha un periodo storico? Questo si chiama in qualche modo, cioè c'è stato il romanticismo, c'è questo, il futurismo, c'è questo l'ermetismo. No, cioè, oggi come oggi è molto difficile, ormai le correnti, le avanguardie o comunque i periodi storici non esistono più. Esistono delle micro storie, dei micro avvenimenti, però come ci definiamo? Ma... definizioni le lasciamo sempre sbagliate ai posteri. Appena verrete a mancare sapremo di corrente si sono occupati questi, no, Davide? Beh, tu sai che poi molte correnti sono nate come offese, no? Posso far finta di dirti sì, ma no, nel senso che, per esempio, io ero amico di Mario Luzzi, che è stato uno dei miei maestri, che era uno dei rappresentanti così dell'ermetismo. Certo. E io dicevo a Mario, cos'è l'ermetismo? E io dicevo, io non lo so. Perché erano gli altri che li definivano ermetici, molto spesso in senso anche, non dico dispregiativo perché non è un disprezzo, ma come indicare un limite, e molto spesso le etichette critiche nascono per distanziare, no? Per questo giustamente dicevano non c'è un autoetichettarsi, non ha senso, e poi molto spesso le stesse etichette sono non è che Monet diceva sono un impressionista, sì, cioè, sono più le schedature che devono fare i critici e così per dare un minimo di orientamento, ma nessun artista si pensa, se un artista vero si pensa dentro un'etichetta, dice io sono di quello, dico, cioè. Poi ci sono stati alcuni momenti, tu citavi il futurismo prima, sì. È stato il momento in cui attraverso il coagulo intorno a una grande personalità come era Marinetti in quel caso, sono nate tante cose a cui si è dato un nome generico di futurismo, ma c'erano anche lì dentro esperienze contraddittorie che però avevano come un unico orizzonte. Ma il futurismo, poi tu sai, è stato un fenomeno che è andato dall'America Latina, sì, alla Russia, non è che era un gruppuscolo di poeti italiani, cioè, poverini, ed è stata l'unica grande avanguardia italiana del Novecento, tra l'altro. Quindi voglio farti magari sentire una poesia dei nostri amici, anche perché potresti poi non giudicarla, perché insomma sono riportate sei, sto cercando di sceglierne una. Macale, Mariano, cosa preferisci? Un'epistola apocrifa? Perché no? La faccio leggere a Luca. Sì. Luca, tanto tu sei... Me la preparo o la leggo così all'impronta? Ma quando mai noi ci prepariamo delle cose? Perdonami, tu adesso te la vuoi preparare. Non ci sono parole difficili come l'altra che ho letto io l'altra settimana, che c'erano delle, ho sbagliato un paio di accenti, però insomma sono dettagli. Sì, metti il suono, va bene, questo va è bene. Amore, vuoi una musica a contrasto o vuoi una musica che accompagni? Non saprei, c'è un Philip io Glass, a seconda della musica parte poi, capito, l'interpretazione, diciamo. Vediamo, andiamo un po' come si dice, vai. Epistola apocrifa. Bella questa, è Philip Glass, ci sta. Machele. Macale, che è lui. Macale, molto bene. Sì, siamo presa prima toppa. Siamo bene. Andiamo bene. Un giorno lo farò. Prenderò la penna, un foglio e inizierò a scriverti. Ma non come fanno certi mittenti distratti che dettano telegrammi. Auguri, Mr. Green, mentre seppelliscono la libertà in cortile, barattandola con un vicino cortese, patriota e moderato. Collezionista di caravelle dentro bottiglie scolate da altri diversi da lui. E non ti scriverò neanche come fanno i poeti, quelli che fanno baciare le rime, ma che usano i preservativi per timore di partorire un capolavoro. La bellezza non nasce mai per caso, ma per amore. Non ti scriverò come fanno gli scultori quando scolpiscono il marmo e non lasciano fare il vuoto. E non lasciano fare al vuoto il suo sacro lavoro. né come fanno i pittori che si masturbano su tele tagliate soltanto per scoprire che dietro le cose non c'è niente. Non ti scriverò con lettere di alfabeti già usati, né con parole di nessun vocabolario. Sarà una lettura colma di silenzi, quelli che solo gli analfabeti come me e te sanno capire, diplomati alla scuola dell'amore, senza lode, per punizione, perché non amavamo né prima né dopo i pasti, ma durante, perché ci siamo nutriti di ciò che eravamo, senza saperlo. La musica ci sta bene. Come Phil Glass è moderno nella sua classicità. Com'era? Beh, questa non è ermetica, per esempio. No, ma questa no, questa è una poesia. Non c'è niente di ermetica. No, non è ermetica. È bella, sono dei punti molto belli. Bella, sì. Devo assolutamente ringraziare Del Fabbro perché ha aggiunto dai tempi di scuola. Uno a uno. Tempi di scuola. È vero. Oggi c'è il derby. Perché come Pino insegna, perché è declinato. Terza persona singolare. Però io sono sempre stato Del Fabbro. Sì, per forza. Pino Del Fabbro. Sì, Pino Del Fabbro. Luca Del Fabbro. Ci sta. È conseguenziale. E cosa fa Pino? Insegna. Certo. Non è insegno, capito? È certo, è giusto. Per cui, a parte qualcuno è pestato di nato pure ieri, vedi c'è Pino Daniele, ho detto magari signore, purtroppo non lo troveremo neanche più. Non era male questa bella poesia, no? Sono alcune cose molto belle. Senza segni, hai neanche una matita rossa ti ha messo. Sì, non so se un giorno la scriverò davvero questa lettera apocrifa, perché inizia dicendo un giorno ti scriverò. Apocrifa perché appunto va fuori dalle perché non sei tu a scriverla, o perché forse non sarai tu a scriverla, non sarò io a scriverla, ma diranno che, ma oppure sarà sempre lei a leggerla, chissà. Andiamo bene con i poeti, come fai a parlare con i poeti, Davide? Io non ci riesco. Con i poeti viventi è difficile. Poeti viventi, è meglio parlare con i poeti morenti. Quelli che fanno poco bene. Sta per tirare qua e non dico più nulla. A me piace molto questo titolo del tuo ultimo libro, che è Mondadori, se non sbaglio. Specchio Mondadori, sì. Che è La natura del bastardo. Mi piace come è stata definita qui. Io gliel'ho letta prima e non ci ho capito niente. Sulla spiegazione, no, nel libro, il libro l'ho capito, è meraviglioso, ma la spiegazione del libro è difficilissima. Ma come è una nota editoriale, sì. Non te la prendere troppo. No, lo so che non la prendo. Senti. Ma poi guarda, devo dire, una volta mi ricordo una conferenza, una lettura di poesie, a un certo punto si è alzato un signore dal fondo e mi dice, ma le poesie non si capiscono. E io ho detto, guardi, prima stavo per spiegare le cose, era la poesia contemporanea, le metafore, le cose. Poi ho detto, perché lei sua moglie la capisce? I suoi figli le capisce? La guerra in Iraq la capisce? Qui non capiamo un cazzo, non capisce solo la poesia. Perché? No, perché sai, l'arte vera, mette esattamente in questione la nostra pretesa di capire come se fosse dare due definizioni. In 5 minuti, no? Anche nella poesia che abbiamo ascoltato prima, che è semplice come linguaggio, dentro ci sono alcune cose che ti sembra di capirle, ma quando dice di lasciar lavorare il vuoto, cioè un'espressione del genere, cosa sta dicendo veramente? Perché l'arte è così, cioè. Ne parliamo adesso, poi rimani questo blocco ancora con noi, a tra pochissimo. Voice Anatomy, grazie. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori, ma che titolo fantastico, La natura del bastardo. Di cosa parla? Chiedono per mail. No, di cosa parla? Della vita, perché la vita, la poesia parla sempre della vita, mette a fuoco l'esistenza in tutte le sue espressioni, in tutte le sue forme. Il titolo l'ho voluto dare, appunto, come accennavo prima, un po' anche polemicamente rispetto a un'epoca in cui sembra che invece inseguiamo tutti un'idea un po' astratta, un po' mentale, un po' sterile di purezza, no? Le mani pulite, i protocolli perfetti, il chilometro zero, il bio. come se appunto il bello della vita fosse una sorta di purezza che abbiamo in mente, mentre invece la purezza è un dono quando capita, e la vita procede per imbastardimenti, no? Cioè le razze si devono imbastardire per proseguire, la lingua si deve imbastardire, come dicevo prima anche Dio si è imbastardito, si è fatto uomo, cioè le cose per procedere devono imbastardirsi, sennò si fermano, perché appunto in ciò che è puro la vita non cresce, no? E questo è, per noi invece abbiamo questa pretesa un po' di assomigliare a Dio, no? Cioè di essere puri di per sé. Come dice Woody Allen, a qualcuno dovrò pure ispirarmi, no? Esatto. Allora, a questo punto leggiamo, che è l'ultima poesia della, l'ultima poesia del libro, del libro della natura del bastardo, stavolta di Davide Rondone. È nato su un, ero a bere un bicchiere di vino in un porto del sud mentre aspettavo che mi venissero a prendere. Ed è nata questa poesia. Come tutte le cose nascono in poco tempo, le cose più belle o ci vuole più tempo? Beh, le cose geniali sembra che nascano così. Si dice concepire come quando fai un figlio, è un attimo, poi sì. Dopo c'è 9 mesi, dopo c'è le doglie del parto, cioè c'è il tempo, dopo il tempo conta. La scintilla. Scintilla è sempre un attimo, l'ispirazione è un attimo. Certo. È così anche per voi cardiopoetici? Cardiopoeti? Fabio? Ma dipende, effettivamente dipende, nel senso che ci sono delle poesie o dei testi che nascono perché guidati, perché escono completamente fuori come con la spontaneità di un bacio, e altri testi invece, soprattutto per quanto riguarda personalmente parlando, per la prosa, è un discorso molto più complesso, molto più lungo, molto più anche quotidiano. E al fine approvo la scritta sul mio avello. Molière era un grande genio e Cristiano era bello. La scrissi, mi ricordo. No, beh, sai, lo diceva un pittore francese quando chiedevano quanto ci hai messo a fare questo quadro. Lui diceva un minuto e tutta la vita. Certo. Perché è chiaro che uno può fare anche un quadro in un minuto, ma perché poi ti dipinge da tutta la vita. Certo. Cioè, quindi anche l'idea appunto che le cose vengono fuori di getto, sì, magari scrivi, il concepimento viene... cioè, il concepimento in un attimo, poi è chiaro che uno che ha un grande allenamento può fare anche una cosa velocemente, ma perché è tutta la vita che scrive e legge, non certo. È che improvvisa da vomita zero, su un foglio certo, bianco certo. Le parole. E allora Luca, leggimi questa poesia. Non hanno titolo questo, il titolo è la natura del bastardo. Alcune hanno titolo, altre no, questa è l'ultima, quindi... questa non ce l'ha il titolo, no, no. Facciamo allora... senza sottofondo, no, come senza sottofondo non possiamo, no, scusa. Tieni. Qui ama nel sottofondo, capito? Sì, io amo, si può vivere senza musica. L'anima diventa una nave, grido, nelle ombre della sera. L'ultimo sole sull'oscurità del mare, una ferita. Non sarai più lontana vita da te, vita. Non viene la grande notte senza portare le stelle visibili nelle lacrime sulle ciglia. L'ultima parola, baciando in bocca la tenebra, sarà meraviglia. Stasera alle 20:40. Bello, guarda, veramente sono. Tutti ci sentiamo poeti, eh? Tutti scrivono poesie. Ma poi la poesia che resta è altro. Uno pensa che quella parola abbia quel suono così romantico, così bello, ma poi ti accorgi che non ha senso, ma non solo, non ha proprio profondità, non ha tridimensionalità. Poi quando leggi la vera poesia dici, ecco, questa è la vera poesia. Beh, non lo so se questo appunto, no, no, io non però... conosco solo questo di te, no. Per cui mi piace perché tu spazi veramente, vi do alcuni titoli, cioè questa cosa mi è piaciuta, Gesù, il racconto sempre nuovo, che mi è piaciuto tantissimo. È un romanzo. Romanzo, sì, perché tu alterni poi Gesù, sì. Come E se brucia anche il cielo, un altro bellissimo romanzo su Francesco Baracca. Sull'aviatore, sì, anche questo, dove c'è. Io sono sempre l'idea che poi uno che scrive poesia e poi scrive un romanzo è intenso. È come una grande rockstar che fa il pezzo lento. Diventa sì. Di una potenza infinita. Non so se è potente, però di fatto uno che scrive poesia, anche quando scrive prosa, c'è una densità, è così. Speriamo che sia così. Il bacio di Siviglia non lo conosco, invece, direi proprio. È la storia di Don Giovanni, dovresti conoscere. Ah, sì, la storia di Don Giovanni, sì, però non l'ho letto. La vera storia di Don Giovanni. La vera storia di Don Giovanni. Prima raccontai, poi faremo una puntata di racconti gossip di chi era Dante e cosa faceva in realtà. Poi c'è 5 donne e un'onda. Se tu fossi qui, altro romanzo, e questo mi piace molto, il manuale di sopravvivenza di un cattolico libero in Italia. Questo quando l'hai scritto? Ma è quasi un gioco fatto con un amico, perché appunto ci sono tanti luoghi comuni, tanti schemi che con Stefano rompere. Del Magno, no? Sì, bisogna sempre rompere i luoghi comuni, gli schemi, quindi un poeta deve fare anche questo. Allora, siccome si pensa di sapere tutti cos'è essere cattolici, ho detto, beh, forse non è vero. Invece quello che ho conosciuto per prima e quello che poi ho avuto modo di leggere quando siamo conosciuti è L'amore non è giusto, che è un libro da regalare. Sì, non è giusto, quello... si poteva aggiungere per fortuna, perché io spero che nessuno dei nostri ascoltatori sia amato giustamente, cioè sia amato per i suoi meriti, no? Ma sia amato un po' ingiustamente, no? Non è che se uno ti dicesse merito di essere amato da te, certo, che cazzo è, cioè, che no, vuoi, che vuoi? Cioè, no, invece no, è proprio è lì il bello, che tu sei amato ingiustamente, i tuoi figli non è che li ami per i meriti che hanno, la donna con cui stai non è che la meriti, cioè non è che ci, mi meriti, sto certo con te perché mi meriti, no? Esatto. Spesso è il contrario, quindi, sì, Beh, tanto è vero che se ci pensi il più grande frutto di qualsiasi amore, anche in un'amicizia eccetera, si chiama perdono, che non è proprio una cosa giusta, no? Però è la cosa più bella. È vero, io ho notato ultimamente che ho perdonato, mi sono sentito meglio di quando odio. Beh, sai, è perché una persona che avrei veramente fatto del male, l'ho incontrata e l'ho perdonata, sono stato meglio. Se guardi il Cantico delle creature di Francesco, sì, ci sono, c'è una frase molto bella che è l'amore, che poi tu hai nominato in una tua intervista, una tua lezione che fai nelle varie università. L'amore è forte come la morte. Sì, non è la mia, è un verso del Cantico dei Canti. No, è un verso hai nominato il Cantico dei Canti e io ho nominato questa. No, so che non è tua. Sì. Per carità, sì, però, è nemmia. Però del Cantico delle creature di Francesco dice che appunto l'uomo perdona, l'acqua bagna, il sole scalda e l'uomo perdona. Cioè nel teatro dell'universo la cosa che l'uomo può mettere in campo di veramente originale è il perdono, perché non è secondo natura, cioè è secondo la libertà. No? Sì, solo un essere libero perdona, il carciofo non perdona, il cerbiatto non perdona, invece un essere libero può perdonare. L'uomo fa questa cosa straordinaria nell'universo che nessuno può fare. Nel Cantico dei Cantici, sì, l'amore è forte come la morte, è un verso bellissimo, perché mio nonno quando si innamorava mi spiegava, dice: signorina, sento del trasporto per lei, no? La parola trasporto si usava anche per i funerali, no? Certo. Perché in tutti e due i casi, quando ti innamori, quando ti portano al Camposanto, non decidi tu di andare, devi, vai, ti trasportano qualcuno. E poi l'amore è forte come la morte vuol dire un'altra cosa straordinaria, che la vera battaglia non è tra la vita e la morte, come ci vogliono far credere, perché tra vita e morte non c'è battaglia, sono tutti e due dello stesso campo, dove c'è vita c'è morte, dove c'è morte c'è vita, quindi non possono essere questi due termini di scontro. Qual è tra l'amore e la morte, cioè nella tua esistenza lasci più amore o lasci più morte, l'ultima parola sulla tua vita è la morte o l'amore, questa è lì la vera battaglia, è che una battaglia si gioca tutti i giorni. Eros e Thanatos. Dica? Qual è una Eros e Thanatos. Lui parla in greco, ogni tanto parla in greco. Sono uno degli elementi è questo rapporto che c'è sempre stato. È una visione molto cristiana. Eh? È una visione molto cristiana. Beh, no, questo non è un cristiano, questo è un pastore semita pre-cristiano di almeno qualche migliaio di anni. Vai che sei lì. L'amore due generazioni. No, una visione cristiana, questa del scegliere tra l'amore, la morte. Beh, lo dice lui, quindi sconfiggere comunque la morte con l'amore. Beh, non è solo cristiano. Questo non era cristiano che l'ha scritto. Sì, no. Cioè, penso che sia umano, non è cristiano. Poi si può discutere sulla se cristianesimo è umano o no. Io penso di sì, però credo che quello fosse un uomo con le palle non che scrive una cosa così. Sì. Magari entra Maria, aiuta un attimo Fabio su sta cosa. No, ma io sono d'accordo. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto, che tu hai fatto una descrizione molto lunga, non ci bastano quei pochi minuti che sono rimasti, ma senza l'infinito l'uomo muore. Mi piace. Beh, sai, noi siamo fatti per l'infinito, tant'è vero che sentiamo il limite come una ferita, no? Cioè, se no uno morirebbe tranquillamente o lascerebbe che le persone che amano vadano via tranquillamente, invece senti il limite. E se senti il limite, perché in qualche modo sei fatto per qualcosa che non ha limite, se no non lo sentiresti come limite, no? Ovviamente, è proprio una questione logica, diciamo. Poi è chiaro che Leopardi l'ha fatto vedere. Sì, in tutti ecco, i modi. Prepara fra due anni c'è cioè il bicentenario della scrittura dell'infinito. Facciamo una puntata ma secondo te, ma se Leopardi fosse stato alto, biondo e con gli occhi azzurri avrebbe scritto l'infinito, avrebbe scritto l'infinito sicuramente, non stava lì con Silvia sotto a cespuglio che tanta parte scritto, no, non avrebbe scritto mai quelle cose, avrebbe scritto altre cose altrettanto belle, però l'avrebbe scritto certo. Non è dettato dalla sofferenza. Sono tanti poeti alti, belli, con gli occhi azzurri che scrivono le poesie meravigliose. Lo sì, stesso. Certo. Allora il binomio poesia sfiga è un binomio da vecchie professoresse. E poi Foscolo, non funziona. Esempio, grande donnaiolo, conquistatore. Sì, no, ma leggo ogni tanto questa drammaticità delle vite dei grandi poeti, dei grandi letterati, grandi romanzieri, grandi recensori, di Edgar Allan Poe, queste persone tormentate, non parlo di sfiga, erano pure belli, per carità, però tormentati. Beh. Amico mio, devi andare, mancano 30 secondi, però volevo farti salutare come meriti. Insomma, no, grazie, ti ringrazio per l'ospitalità, sei stato molto gentile, perché poi non è facile che in radio si parli così semplicemente. Sì, ma in questa maniera è bello, perché veicolare la poesia in questo modo, comunque la vita in questo modo, è traducibile, è capibile e non è solamente interpretata. Certo, certo. Un po' come già all'inizio quando spiegava i quadri, il pazzo di, come si chiama, Sgarbi. Certo. Cioè, aveva la sua follia, il suo divertimento. No, ti raccontava i quadri e tu, che non capivi niente d'arte, lo seguivi. Dici, ah, adesso l'ho capito, mi piace. Certo. Ma l'Italia è bella, per questo, perché in Italia l'alto e il basso si toccano. E ci vogliono quelli come te che fanno toccare l'alto e il basso. Perché questo è se ci pensi, Dante è il più alto dei poeti e anche il più popolare dei poeti. È vero. È vero, è così. E su questo io mi fermerei, però rimane qui Luca Dal Fabbro, i nostri amici della Gardio Poetica. Ringrazio Davide Rondoni e vi ricordo veramente La natura del bastardo, un libro di poesia straordinario. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci, devo dire che la poesia in questa trasmissione sta avendo una bellissima cassa di risonanza, perché insomma poi veicolata da voci importanti come i miei amici e colleghi attori e doppiatori, devo dire che è il modo migliore per veicolarla. E devo dire che Rondoni è, qualcuno dice, la voce molto simile a Guccini. Sì, è di quelle zone. Questa mi fa molto ridere. Da oggi, da coatto, mi chiameranno ermetico, prima ero ermitico. Mi fa ridere. La natura del bastardo, va bene, lo seguirò. Un altro dice va bene così, un altro non riesco a capirlo bene. Anche l'animale perdona, viene bastonato e picchiato, rimane fedele al padrone. È un atto eroico. L'animale ha un animo molto più nobile e sincero di noi uomini, e spesso è così. Ci ha riraggiunto Alessandro Nese, si è liberato una... Beh, giustamente, se è venuto a vedere la trasmissione puoi anche farla, è molto democratica. Ma allora siamo tutti artisti, eccetera eccetera. Che idea, una facciamo fare a telecronaca del derby a Carletto e poi mettiamola su YouTube. Ci hanno preso il mattino. Carletto, non c'è niente da fare. Senti, invece voglio andare avanti con le poesie dei nostri amici. Sì, perché per giusto oggi poi una giornata di sì di no, per cui bisogna dare lo stesso spazio a tutti, per cui devo leggere una poesia di Fabio adesso. Me ne hai date anche tu tre stavolta, eccole qui. Quale vuoi, Fabio? Conservami. Quella che baci, sei venuta con la pioggia. Questa già mi stimola. Ecco, vai, vai. Dolore ovunque, mamma mia, no, dolore ovunque. Sei venuta. Allora dice l'autrice Alessia Navarro in interfono che conservami baci, gli piace molto. E allora io la dedico a lei e anche a tutte le nostre radioascoltatrici. Speriamo di... non ci siano parole difficili con delle... No, non ci sono, vero? Perché non l'ho letta. Grazie Alessandro. Conservami baci inaspettati, baci come clandestini non voluti, duri come le sentenze. Conservami baci che non sanno di niente, virali come una forma rara di amore. Conservami tutti quei baci che le mani passano sui piedi dei santi, che i detenuti sostituiscono le sedie elettriche. Conservami baci cocenti, abituati alle eclissi, baci che sappiano pedinarmi e che ronzino come alveari. Conservami baci invisibili, affrancati su ogni dito affinché io possa contarli e chiedertene di nuovi. Conservami tutti quei baci che hai ammutinato per non concederne troppi, quelli estinti dal sapore aspro perché ultimi, quelli che hanno calcolato la geometria del mio basso ventre. Conservami i baci poggiati sulla mia bocca di filo spinato. Abbiamo preso anche l'intro degli archi, eh? Bella, bella, bella. Bella. Conservami si chiama questa poesia, immagino. Conservami i baci, sì. Conservami. Beh sì, in effetti questa è... Che comincia sempre, il titolo della poesia è sempre l'inizio, l'incipit. Sì, no? Quando le poesie non hanno un titolo, sì. È successo qualcosa dall'altra parte? No, ho visto delle facce strane, siccome il derby continua, io ho la poesia nel cuore, ma ogni tanto un'occhiata dall'altra parte ci va serenamente. Cioè sempre 0-0? Immagino di sì, a meno che non dicano... No, sempre 0-0, chiedeva Luca, anche perché non seguivo il calcio, tu mi pare. No, per niente. Ma no. Giustamente, seguivo la poesia. Conservami i baci. Tu sei innamorato, Fabio? Vabbè, i confini del Molise. Sì, della, domanda esatto, nella finzione, nella finzione. Domanda a piacere. Nella poi. Mia vita passata e in quella futura, sì. Non sei sposato, fidanzato? No. No, non sia mai, che ti ho chiesto. Giovane, così giovane, già lo vuoi far sposare. No, a parte 29 fallo divertire un po', così, ma di sposarsi. 30 anni dei genitori, una volta c'erano già due figli, insomma, no. Una volta, ma adesso che l'adolescenza va fino ai 45-50 anni, praticamente, insomma, quella è l'età in cui uno si sposa, dove certo. 45, diciamo, no? Sentite, ma i vostri genitori, che ne pensano di questa vostra realtà poetica? Ma c'è una frase molto bella di Philip Roth, certo. Che riassume un po' il tutto. Quello che pensa papà. Sì, no, quello che penso io. Questa frase dice sostanzialmente che quando nasce uno scrittore all'interno di una famiglia, quella famiglia è rovinata. E quindi credo che questo sia il succo che ci caratterizza. Effettivamente è così. Effettivamente un artista crea un caos sia dentro di sé che intorno a sé. Mariano, è molto difficile. Non è che mamma dice perché non vai a lavorare? Perché comunque uguale succede anche noi quando dici voglio fare l'attore. No, ma vai a lavorare. Questo è un bel problema. No? Sì, infatti un poeta è all'eterna ricerca di un lavoro. Sì. Perché un libro, perché magari un successo editoriale può aiutare anche teatrale, come succederà. Come fai a spiegare che tu guardi fuori dalla finestra e stai lavorando in realtà? Non lo capiscono, è difficile. Esatto. Alessandro, tu che sei un uomo che ha un figlio non così grande, ma se tuo figlio venisse da papà... Ma io infatti ripensavo alla frase ed effettivamente ci si immagina che l'artista si prenda degli spazi, dei tempi per creare che non sono compatibili con quello che ci si aspetta da una vita normale. Cioè, da una vita normale ci si aspetta che ci siano degli studi, poi ci sia un percorso lavorativo, poi ci sia magari un'area di interesse che viene poi approfondita. Alcuni fortunati nel lavoro, altri invece rimane solo un hobby, un'area di interesse, ma è difficile pensare a conciliare una passione forte, uno slancio artistico con una professione. Quindi io vi ascoltavo con attenzione, mi incuriosiva molto quello che dicevate. Tuo figlio ha 15 anni, fa il poeta? No, non mi sembra neanche molto portato, sinceramente. Detto così, l'adolescente... Non si può mai sapere, però non credo. Invece ci sentiamo, noi abbiamo fatto qualche anno fa, io non dico mai noi, ma in questo caso l'abbiamo fatta, abbiamo letto le canzoni dei Pooh tramite Christian Jansante, grande amante dei Pooh, per cui si è inventato che alcuni di noi doppiatori leggessero, mettessero in poesia, in prosa, insomma, le canzoni... dei Pooh, e ce n'è una che ha fatto anche Luca, che abbiamo, e che è Brennero 66, che poi io non conoscevo perché questo io sono... sì, perché purtroppo io c'ero l'età, tu c'è quello, sì. Avevi già un inizio di prostatite in quel periodo. Allora sentiamocela. Nella tua casa di pietra bruciata non hanno mai visto la neve. Ora sul muro è rimasta soltanto quella tua foto. Stringevi in mano il fucile. E una campana in paese racconta a una donna che piange di quel tuo fucile che non servì a niente. T'hanno ammazzato quasi per gioco, per dimostrare alla gente che tra quei monti la voce del tempo, degli uomini uccisi, non deve contare più niente. E la campana un po' triste, che a te sembra tanto lontana, potrebbe tacere e lasciare il silenzio per te. Beh, no, è una poesia. Bella. Questa, È una poesia, sì. Chi una poesia. Una di loro, una di sì, perché era dedicata a loro. Sì, è lui l'autore che poi è morto dei Pooh, e allora è stato dedicato, adesso non voglio... No, aspetta un attimo, perché qui fanno i sorrisi. È successo qualcosa? Ha segnato la Roma, va bene. Ha segnato la Roma, immagino. Al 40esimo? 2 ne ha segnati? 2-0, va bene. Ma sono cretini. Cioè, gli autori sono entrati come faceva il Bari una volta. Hanno fatto il trenino dentro lo studio. Stiamo parlando di voi. Carine. Sì, ma uno di loro tornerà vicino a casa mia, l'altra anche. E questa gioia finirà. Inaspettata, Devo dire inaspettata questa vittoria. Non è finita la partita. No, capito, 2-0, mancano 5 minuti. Ma stiamo parlando di poesia, non mi interessa il calcio, non lo seguo già da un po'. Sono un'ora e mezzo che non seguo il calcio. Sì, no, bella, bella davvero. Adesso non mi ricordo chi dei Pooh, se mi aiutate, un autore pure molto bravo, mi dispiace questa dimenticanza. Conservami baci, grazie per la bellissima poesia, vorrei innamorarmi per poterla dedicare al mio amato, dice Francesca. Questa è una cosa molto bella. Carovino, al Gran Premio ci saranno ospiti internazionali come Modena anni fa? No, quest'anno no, c'è un'orchestra però di 40 archi con degli ospiti speciali, e poi sono i miei colleghi e gente normale che viene a vedere questo Gran Premio internazionale del doppiaggio, che è martedì, proprio martedì 6. Sera. Sì, martedì sera all'Auditorium Il Massimo. Devo dire che è sold out con un overbooking molto importante. Tu ci sarai, Annese? Sì, è stato invitato. Sì, ah, sì. Beh, tanto conduco io. Vabbè, io non potrò mai vincerlo, quello mi dispiace. Se conduci non puoi vincere un premio. Non te può, beh, posso. Oddio, ah, dai. No, non si può, dai. Non è etico, dai, su. Però se la giuria stabilisce che no, quest'anno vogliamo assolutamente dare un pino. Ma no, c'è stato un periodo qualche anno fa in cui c'erano dei premi, era pure giustificato. Ma... per esempio, io per Roy Donovan te lo darei, per esempio, vedi? Sì, però no, non è, non se può, ma era stato candidato, però ho chiesto proprio di essere tolto. Va bene, però bene. È giusto. Ti fa molto onore. È questo, giusto molto che sia onore, così, insomma, onore, mi dispiace onore. Perché poi il premio che ho creato, certo, l'ho voluto fortemente, perché poi è una grande festa più che un premio, sì, cioè non è il miglior doppiatore, il miglior doppiatrice, il miglior fonico, il miglior adattatore. È una festa, è una scusa per stare tutti insieme, perché sono tutti bravi. Ringraziando Dio, lo urlo sempre, sono tutti bravi. Non te può rodere le corna mai. Su questo, bene, per cui, e dai, mi rodono un po' a me, visto che hanno mantenuto il silenzio visivo nonostante la gioia del gol. Nessuno di loro, chi ha segnato? Yang Gambiwa, Strootman e Nainggolan. Benissimo, se era 0-0, era de tristi. Ah, per me, chiedo scusa di questa diversificazione, di questa, non trovo neanche laziale. La parola giusta, eh? Sei laziale. Sì, sì, ma poi passa, è una cosa che se tu prendi degli antibiotici anche due al giorno ogni 12 ore. Ma parliamo d'altro, signori. Allora, mancano 2 minuti, ma andiamo in pubblicità prima? No, scherzo, mi si è strozzata la voce in gola, sto scherzando. Che cosa combinerete adesso, ragazzi? Uno se n'è andato in giro per l'Europa, ma adesso tornerà. Adesso tornerà e poi ripartiremo tutti quanti insieme a... Allora, era Valerio Negrini... Esatto, chiedo scusa, era il grande autore scomparso di questa mitica formazione che sta seminando successi meritatissimi con tutta la formazione al completo in tutta Italia e anche forse in tutto il mondo. Dimmi. Sì, no, partiremo insieme per un piccolo tour e andremo a Pisa, Bologna, Venezia e Brescia con il nostro spettacolo, facendo reading e accompagnandoci. E poi anche a Roma, e lo faremo insieme lì, sì. Perché al Teatro Cometa Off, credo dal 5 al 9 gennaio, lì ci sarete. La Cometa Off di Roma, ed è una produzione nostra, proprio di Voice Anatomy, mia, di Alessia Navarro e di Mauro Meconi, perché meritate questa attenzione, e stiamo poi costruendo uno spettacolo molto importante che avrà seguito dopo il debutto della nostra autrice Alessia Navarro al Quirino a maggio con Frida Kahlo. Si camminerà attraverso la poesia, attraverso la follia, sì, che racconta la poesia. Insomma, sarà un bellissimo esercizio di stile. Signori, l'ultimo blocco è alle porte, io non mi collego con tutti i convocati, non voglio sentire nessuno. A tra poco con Voice Anatomy. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Voice Anatomy. Eccoci pronti per l'ultimo momento insieme, gli ultimi 9 minuti insieme. C'è Capuano lassù? Non ce l'abbiamo per tutti. Come ha detto no? Ma non è. No, digli di sì, dai, ci colleghiamo con Capuano. Io sono comunque onesto, intellettualmente parlando, calcistico, sportivamente parlando, accetto. Ero convinto del contrario quest'oggi, proprio per le motivazioni, per la gioia, i tifosi che tornano allo stadio. Certe volte la vita non è come un film, non è un film di Frank Capra, dove no? No, dove Rocky vince. Dove tutto finisce bene. Esatto, infatti. Va bene, poi per me è finito male, per molti altri è finito benissimo. Assolutamente. Per cui dipende da che punto di vista vedi questa storia. Allora, qualcuno sente ridere per il 2-0. Pino caro, mi piace come gestisci la sconfitta della squadra del cuore. Sì, sì, no, no, assolutamente. Ma uno sportivo, un vero sportivo. Assolutamente, io la prendo serenamente. Fondamentale, fondamentale. Ci sono dei tuoi colleghi che non la prendono così sportivamente. Che bella questa cosa. Perpino, sei più amico tu che conosco di vista e di voce che di tanti che mi hanno lasciato. Grazie Pino, ciao Luca. Grazie. Ciao. Valerio il tecnico del suono, senza nulla togliere ad Alessandro, quando torna è a guardare la partita? E quello è sicuro, e starà pensando a me e a tanti altri. Non so, adesso starà meglio Valerio. C'è Capuano, ci colleghiamo al volo con Capuano, con lo sport un attimo, perché tutti convocati. Anche Valeria sta meglio. Anche Valeria sta meglio. È vero, perché pure Valeria, il tecnico, voi che avete a Milano, che sì, è l'altra di Roma, della Roma, giustamente. E sai perché sta meglio? Sì, lo sai già. Lo so già, perché ti ho dall'altra parte i due autori che invece di seguire la trasmissione... Come stanno, bene o male? Stanno bene, hanno nascosto l'1-0 per un'ora. Io pensavo che... Cioè, l'hanno fatto per me, mi dice Mauro Mecconi, cioè, hanno fatto per me. Per non distrarti. Io ho evitato di collegarmi con te prima, perché magari segnavano anche prima di che cominciasse la partita. Anche se è una trasmissione poetica. Come vanno le cose, a parte il derby, bah, che sta andando insomma, malissimo? Il derby 2-0 per la Roma, Strootman e Nainggolan, tutto meritato, nel secondo meritato, tempo. Meritato, vero? Sì, complessivamente meritato, anche se l'inizio era stato decisamente meglio della Lazio. Nella prima mezz'ora, poi però piano piano la Roma è uscita, c'è stato il caso da Muviolone alla mezz'ora del primo tempo... A questo punto è irrilevante, personalmente penso fosse calcio di rigore per la Roma, ma è tutto materia insomma utile per capire come ci divertiremo con la moviola in campo l'anno prossimo, quando arriverà. Ti do gli altri risultati. Sì. Detto che non è ancora finito nulla, siamo proprio negli ultimi minuti, la Sampdoria sta vincendo 1-0 sul Torino, gol di Barreto al sesto minuto del secondo tempo, sta vincendo largo il Sassuolo sull'Empoli 3-0, due gol su rigore nel primo tempo, Pellegrini a Ricci e poi il 3-0 di Ragusa, e sta vincendo 1-0 il Cagliari a Pescara in trasferta, gol di Borriello al 21esimo del primo tempo, di Milan Crotone sai già 2-1, gol di Lapadula a 4 minuti dalla fine, e quindi in questo momento la dimensione giusta anche lì, la Padula è entrato in quelle fasi di stagione. Io ho fatto il paragone con Vardy dell'Leicester dell'anno scorso, che segna anche soltanto guardando il pallone. Esatto, pensavo che non trovasse la dimensione giusta in Serie A, per un attimo ho detto vedi forse il ragazzo non era pronto al grande salto, no, invece no, sta dimostrando quel colpo di tacco, gli ha aperto un'autostrada di autostima enorme, secondo me, che ci sta. Va bene, noi pensavamo di poter sognare un po' di più, invece Roma e Milan sono quelle destinate ad essere l'anti-Juve del momento. Però neanche la poesia può. Però se ti posso dare una consolazione, a Roma hanno iniziato con diversi minuti di ritardo rispetto agli altri campi, quindi non è finita. Vabbè, Capuano, mi sono collegato con te, per cui ho deciso che è finita lì la partita per noi. Non c'è problema. Amico mio, buona trasmissione, ciao, buona domenica e ci sentiamo domenica prossima. Un abbraccio a te e a tutti i tuoi colleghi. Bene, signori, eccoci qua tutti insieme, è giusto fare questo rapporto osmotico che c'è con Radio 24, perché è una radio che dà queste bellissime possibilità di farsi una bella chiacchiera, di stare bene con delle persone dall'altra parte che vogliono magari un'alternativa al calcio, allo sport, a qualsiasi altra cosa, magari... al cellulare, una radio parlata e che racconti qualcosa di importante, immagino, insomma. Qui mi dicono Pino, caro, si tratta di Luca Dal Fabbro, vero? Sì, è Luca Dal Fabbro. Sì. È lui. Posso confermare. Sì, ti confermi? Assolutamente sì. Senti, vuoi leggere un'altra poesia di questi ragazzi? Va bene, leggiamo un'altra poesia. Abbiamo di un Fabio Appetito di Sei venuta con la pioggia? Vuoi quella? Sì, va bene. Va bene per te? Eccola qua. La sorpresa è bellissima perché siamo abituati, insomma. Sei venuta con la pioggia. Sei venuta con la pioggia. E con la pioggia te ne andrai. Come un notturno di Chopin, come una pipa di Magritte. Sei venuta che sapevi bene come difenderti dalle prefazioni. Hai masticato sorrisi a digiuno per digerire l'infelicità. E poi ti specchiavi in pozzanghere vanitose, colpite al petto dal naso di un ombrello. Sei venuta che eri un ponte sospeso, che eri una cloche sulle anime della Senna, e fischiettavi coi librai lascive epistole di un umore sbattuto sotto braccio. Sei venuta con la pioggia, e con la pioggia te ne andrai, facendo colare come un pianto, tutto il colore di Monet. così vi piace vince facile, però uno scrive bella. Delle cose e poi... bella. No, ma sono bravissimi, guarda, devo dire che questi tre ragazzi sono veramente contento di averli conosciuti e spero che nasca una collaborazione. Cioè è già nata una collaborazione. Cioè degli echi pavesiani un po', bella, molto bella. Sì, sì, tu non parlate cosa da mangiare perché quindi ormai Carletto o stanno a nominare dappertutto. Quando fai una puntata con le voci di Parenzo, Nicoletti e Carletto? Dai. Invece questa è una cosa molto bella, credo, perché ti dirò anche il nome. Caro Luca, ricordo con affetto la tua cara mamma, la quale mi insegnava l'arte della recitazione nella sua bella casa di Piazza del Popolo, nei lontani anni Ottanta. Sì. E lo dice Mario Ughi. Ah sì, sì, sì, sì. Beh, sì, bella, sì. Bella cosa. Beh, comunque un ricordo molto, sì. Di una mamma è. È bella, beh, ha insegnato a tante persone, mamma. Si è fatto tante, si è affascinato alla scuola dei proiettili. Tu hai trovato chiuso con mamma? Niente. No, non ci hai parlato no, poco. No, perché avevamo un rapporto un po' conflittuale, come tutti i figli con no, mamma. No, io ci ho ben battuta, io scemo, ma che conflittuale. È mamma. E allora, signori, anche questa puntata di Voice Anatomy si sta allontanando al termine. Però sono stato molto bene, mi è piaciuto navigare in questo mare, il naufragarmi il dolce in questo mare, perché la poesia trattata in questa maniera può essere bellissimo. Veicolata, può essere compresa, può essere molto. Anche fatta, però come dice Troisi, la poesia è di chi la dice, non è di chi la fa, di chi la scrive, di chi la fa. Per cui ringrazio quelli che si sono succeduti in questa trasmissione dall'inizio, da Marcello De Vito che ci ha fatto compagnia, senza parlare di politica, Anna Foglietta che è andata di corsa a Teatro Eliseo a concludere le sue belle repliche fino all'11 su proprio Dacia Maraini, per cui sempre di poesia si tratta, Alessandro Annese, Alda Merini, scusate, Dacia Maraini, vabbè comunque non ho... anche lei, cioè, comunque è come di Guccini, ho detto De Gregori, insomma siamo là, e comunque sono due personalità importanti. Alessandro Annese è venuto a trovarci come amico e come fruitore esterno della trasmissione, poi è intervenuto. E i nostri amici della cardiopoesia, io chiamo cardiopatici, ma non è così, cardiopoeti, cardiopoetica, grazie a Fabio, grazie a Mariano, l'altro sta in giro per l'Europa. Sta in giro per l'Europa, sì. Ma tornerà. L'otto. Tornerà e poi sicuramente noi parleremo ancora di tutto. Signori, grazie dall'altra parte del vetro, Alessandro sempre puntuale, sempre con un valore aggiunto, come Rachele. Grazie ai miei autori, come autori, non come sportivi. Alessia Navarro e Mauro Meconi, ringrazio dall'altra parte a Milano tutte le persone che si occupano della messa in onda e in bocca al lupo per la trasmissione e il proseguimento. Solo perché oggi abbiamo parlato di poesia mi sento meno solo. A domenica prossima, ciao.